Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo parlando che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Facevi il giornalista anziché insultare. Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Maurone da Mantova che sbrocca con Parenza e come... Quei cani che stanno rinchiusi in giardino, tu passi sul marciapiede davanti al cancello, loro ti vedono e ti iniziano a fare. Ascolta, ma quel vattel con le gambe, che cos'è quel vattel con le gambe? Tu gli fai bello, bello. E lui. Non voglio essere interrotto! Sto demente! Tu gli fai bello, bello. E lui. Come si chiama Kiss? Mauro da Mantova. Ma ogni tanto si fa una chiamata Kiss, ci ha rotto cazzo. Bello, bello. E lui. Crusani, a tua manca la dignità, tu non hai dignità, sei senza dignità. Coglione che sei. Un altro anno gli serviva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. Che cosa mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il Masters. Sa cosa dice Oscar Giannino? Basta, basta e basta. Oh, basta! Siamo! Eccoci qui! Ottimo il chihuahua, il cane che abbaia è ottimo, effettivamente un'immagine straordinaria. È un chihuahua cane di piccola taglia, sì, che più viene, come dire, attenzionato di affetto e di cose. Poi gli tiri un calcio e quello ti morde la caviglia, capito? Quei cani piccoli, più sono piccoli. Adesso più sono... non paragonare il signor Maurone da Mantova a un cane, dai. Chiedo scusa ai cani, effettivamente. No, scusa, non vorrei che i cani querelassero la radio. Il chihuahua, io ho molto rispetto per chihuahua, meno per Mauro da Mantova. Allora, ragazzi, in questo weekend appena trascorso, il dibattito politico si è incentrato ancora una volta sui fascisti e sui nazisti, amici miei. L'Italia è un paese da barzelletta. La bandiera in una caserma, amico mio. Il pericolo nazista nelle forze armate. Il pericolo di un pirla, no? Ma è pericolo nazista. Ragazzi, dai, su. Allora, qualche precisazione. Molti di voi già hanno postato, hanno scritto, hanno letto. Come sapete, sicuramente quella bandiera esposta in quella caserma di Firenze non è una bandiera del Terzo Reich. Specie, però c'è una postilla a questa cosa qua, la dico subito, Parenzo, per la tua contentezza, per la tua felicità, no, e anche per chiarezza, dovere, e anche, ecco, per dovere, esatto, di verità, chiarezza. Non c'è dubbio. Allora, quella bandiera lì è una bandiera della Germania Guglielmina, cioè dire, sì, del Secondo Reich, si potrebbe dire così, del Secondo Reich, cioè, della Germania. Molto antecedente all'ascesa dell'imbianchino coi baffi. Esatto, bravo. Allora, viene usata nelle manifestazioni però dei neonazisti, però oggi i neonazisti di tutto il mondo. Di sì, tutto il mondo risposta, usano quella simbolo. Tutto il mondo non lo so. Comunque, sì, sì, beh, in tutte le viene utilizzata da gruppi neonazisti. La risposta sì. È sì. La risposta è sì. Quel ragazzo lì, quel carabiniere di 20 anni che ha chiesto tra l'altro di essere confermato nell'arma dei carabinieri, cioè insomma, vorrebbe essere carabiniere a vita, quel ragazzo lì. Sapete che non c'è più la ferma obbligatoria. Uno deve chiedere, entra e poi se vuole resta. per te, Parenzo, andrebbe bloccata quella domanda? C'è bisogno troncare il sogno di quel ragazzo di diventare carabiniere? Allora, premesso sì, che secondo me chiaro, il giovane, allora, risposta netta sì, sì premesso sì. che il giovane ragazzo non sapeva secondo me un cazzo del secondo Reich, e quindi il riferimento era, credo, chiaramente, perché altrimenti insomma sarebbe un professore di storia e non credo lui dice di sia. Studiare storia si è scritto all'università. Bene, benissimo, però comunque... allora perché ha messo quella bandiera che invece nell'immaginario collettivo è usato dai neonazisti di cioè, tutta tu dici Europa. È chiaramente un simpatizzante nazista o fascista o quello che vuoi. Credo di sì, ma comunque lui a casa sua se la può tenere. Cioè, il tema è che anche se è della Prussia e quant'altro, se la può tenere a casa sua. A casa sua lui può mettere, può addirittura ricostruire se vuole a casa una camera a gas, così quando la mamma entra magari ci rimane secca dentro la casa. Cioè, può fare quello che vuole, può anche travestirsi da deportato lui a casa sua. Sì, per me può fare qualunque tu cosa, dici, in una caserma. Io no. chiederei sommessamente, semplicemente a casa sua, benissimo, gioca alla terza, alla seconda guerra però mondiale. Però dici, mi posso permettere? La mamma gli dice: amore, pronto in tavola, venga con passo di oca. Può anche fare passo di oca per andare a letto, così la marcia dentro va benissimo. La mamma gli dice: amore, ti faccio gli spaghetti. Heil Hitler! Può farlo a casaccia maledetta sua, maledetta casaccia sua, però, dici, dentro però. Le mura. Se però fa il carabiniere e ha la divisa del carabiniere, io soggiorna dentro le caserme del Ministero della che dipendono al Ministero della Difesa, io pretenderei sommessamente, non vorrei essere trattato come il solito pazzo, sommessamente pretenderei non ci fossero simboli neonazisti, ma sommessamente a casaccia maledetta sua può fare quello che vuole, può anche mettere un filo spinato attorno alla casa al posto del citofono, può scrivere Arbeit McFry, può fare quello che vuole. Ma nella casaccia maledetta sua, dentro quelle maledette cazzo di mura di casa, fa quello che vuole, quello che vuole. Però, ti dici in caserma, mi permetterei di dire c'è in caserma. Un luogo pubblico gestito dallo Stato, pubblico, in cui la gente va e dice: buongiorno, scusi, voglio fare una denuncia, scusi, cos'è quella roba nazista là dietro? Questo no. Ecco, solo questo, allora, sommessamente. Per carità, Fiano contro Mussolini. Fiano contro Mussolini. Forza, ma che c'è? Vai, Fiano contro giustamente. Mussolini. Io sono molto preoccupato che un carabiniere del 6° reggimento a Firenze abbia esposto nella propria camerata una bandiera del secondo Reich, che già è stata una bandiera. Mussolini, è una bufala, devi imparare l'hanno anche detto. Ad ascoltare. Buttafuoco contro Maria Teresa Meli questa mattina, signor Buttafuoco. Posso dai dire fascisti, è la bandiera che si vede sempre nei fumetti di Corto Maltese. Ma l'uomo stesso della difesa ragazzi. Lo deve sapere che quello è la bandiera dei prussiani. Ma perché allora non ha fatto niente sul re di Puglia? Perché non ha fatto niente quando è stato profanato l'altare della patria? Ma lo sappiamo che è una strumentalizzazione. Allora, posso dire quello che penso io dopo l'intemerata di David? Allora, io penso una cosa molto semplice. Questo ragazzo... la colpa non è sua. Se c'era qualcosa che non andava in quella caserma, dovevano intervenire i superiori. Cioè, i superiori, se c'era qualcosa che non andava, non è che l'ha vista solo lui quella roba lì, non è che l'hanno vista solo dall'esterno, evidentemente lo sapevano benissimo dentro la caserma che c'era una bandiera esposta. C'era qualcosa che non andava, dovevano intervenire i suoi superiori. Questo qua ha messo una roba, c'era pure una sciarpa della Roma, c'era pure un montaggio con Salvini, credo vestito non so come, o con un mitra in mano, una cosa di questo tipo. Dentro le caserme non si fa propaganda politica. Posso dire, no, ma quello è chiaro, quello è già scritto. Posso, che sia di destra che sia di sinistra, posso dire una cosa. Se ci fossero state delle bandiere rosse con Che Guevara, se ci fosse stata la falcia e martello, non sarebbe successo un cazzo. No, un casino sarebbe. Non sarebbe successo un cazzo. Ma un casino sicuramente, ma sicuramente nulla, non sarebbe successo niente. Ma giustamente dico io, giustamente sarebbe venuto fuori un casino. Allora, a proposito ancora della storia degli skinhead, Giannini, Massimo Giannini, sto dicendo, conduttore, come sapete, giornalista di Repubblica, nella Germania di Hitler bruciavano i libri, le parole, come a Como. Però, amico mio Giannini, di che stiamo parlando? Non hanno bruciato nulla, non hanno bruciato i libri. Beh, meno male. Ma ho capito, ma non c'entra niente il paragone con la Germania di Hitler, che è stato un periodo storico, anche se vogliamo, no, importante nella storia, grande nella storia, grande nel senso più deteriore del termine, ma comunque un periodo grande della storia. Questi sono quattro coglioni del Veneto Fronte Skinhead, non ti puoi mettere a confrontare queste robe qui, il nazismo, con quei quattro imbecilli. E dai, su. Ma nella Germania di Hitler, la notte dei cristalli, nella quale distruggono le sinagoghe, uccidono gli ebrei, è preceduta, quello era il 38, è preceduta 5 anni prima dalla notte del rogo dei libri. I libri vengono bruciati, quindi le parole sono essenziali perché sono la premessa per le azioni. Cruciani, io di Latin l'ho dovuto conoscere. Caldo freddo, come dice la De Mari, fa un male porco. Traffico. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Skinhead di merda, siete degli ignoranti, parlate senza sapere. La storia non è un libro di pagina 24 dove tu leggi la storia così accaduta. Leggi Tunnel, Olocausto, Slobo Venezia e il diario di Anne Frank. Idiota, leggi, testa di cazzo. È gente che è morta veramente e che ha visto gente morire. Testa di cazzo, c'avete la testa come il cazzetto piccolo. David, lo vuoi l'olio di ricino o vuoi il manganello? Allora, caro David, in prima serata su Rai 1, sia il conduttore Fazio che l'ospite, il signor Giovanotti. Conduttore? Conduttore Fabio Fazio. Ah. Sì. Fabio Fazio, sì. Non Fabio, so. Ah, no, perché, io pensavo fosse un nuovo format dove non c'è il conduttore, perché ho visto l'intervista a Berlusconi dove non c'è. Pensavo fosse una nuova idea interessante, anche bella. Di sì, in questo caso, conduttore. Diciamo. Sì, in questo c'è caso un acquario, no? Bello. Sì, c'è un acquario. Beh, sì. E un ospite. Sì, c'è sì. Anche un conduttore, dici? Sì, ogni tanto. Ah, no, no. Signor Fabio Fazio, conosci? Ah, scusa, no, no. Sì, lui, certo, ma non ho fatto caso, non l'ho visto in cioè, questa quando edizione. C'era Berlusconi, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Questo dipende. No, io dagli ho visto ospiti. L'acquario e Berlusconi, ma non ho visto. Ah, tu dici in questa edizione di tempo che fa non hai visto il conduttore? L'ho visto, dici. Me no, no, no, ma sarà che io magari non guardo così attentamente la televisione, però cioè, hai visto, visto soprattutto l'acquario e l'ospite, dico. Quindi l'acquario sono l'ho visto bellissimo, l'ospite ma c'è, è bella quasi l'idea c'è. Di disarticolare, di non mettere conduttori in quella trasmissione, molto bella. Che conduttore che fa dovrebbe chiamarsi, no? Cioè, nel senso, okay, capito? Nel senso che non c'è, è bella l'idea originale, l'idea del format di mettere solo un ospite, sì. Un acquario, sì. È bella, cioè è una cosa originale, non c'è conduttore. E questo sarebbe originale, non è così in realtà, perché è apparso. Ah, tu dici? È apparso ieri una voce che sì. Mi sembra simile a quella di Fabio Fazio, sì, che parlavano di canne con Giovanotti. Ah, in cui no, Giovanotti, scusa, non ho visto ieri. In cui no, Giovanotti no. Si diceva favorevole alla legalizzazione delle canne. Ah, d'accordo, d'accordo. Cioè, sarebbe bello che io dicessi, io invece sì, non me la sono mai fatta. Anch'io. Cioè, non è che ti devi candidare alle politiche, già no, ce n'era uno no, prima, no? Per no. Cui. No, non, senso, me la, non puoi me la, anche dirlo, non me la giusto? Sono. Beh, divertente, questo è divertente. Proprio. Quando ho cominciato a fare il DJ, sì. Io proprio sì. Con il macete passavo sì. Attraverso. Perché me l'ero imposta ma questa certo. Cosa per una questione chissà. Poi tutti quelli non è che stanno benissimo. No, poi fra l'altro io sono anche a favore della legalizzazione. Pensa sì, questo un po', ma non me la sono mai fatta. Sì. Cioè, e se la legalizzano non è che me la faccio. Sì, sì, sì. Ma tu ti sei mai fatto una canna di marijuana? No, proprio una domanda che mi incuriosisce. Sai perché te lo domando? Sì, perché io, prego. Facendo questo lavoro qui, questa vabbè, cosa tu per forza, grazie. No, no, invece no, io ho sempre avuto l'imbarazzo, un po' il senso di colpa quasi, di veramente, anche fin da ragazzino, io non mi sono mai, pur amando il reggae, la musica giamaicana, mai fatto, e lo dico con un certo imbarazzo, mai fatto una canna in vita mia. Adesso mi dispiace. Facciamocene una, ce n'avete? No! No! Home, no rage, una specie di mini spot da parte di Jovanotti alla legalizzazione della droga leggera, argomento su cui siamo d'accordo, per carità, cioè, qualcuno però potrebbe non essere d'accordo. Qualche bacchettone, signor bacchettone. Adesso è anche legittimo essere contro la legalizzazione della droga. Non è che uno per forza. Ho detto è legittimo, ma è da bacchettoni, ma proprio da fuori dalla storia. Ma non è gente vero, che non su questo capisce ti tu, come ridurre il danno. Ma tu criminalizzi le idee avversarie? Cioè, no, siccome, non criminalizzo niente. Io penso che sia giusto farlo. Dopodiché, chi pensa il contrario, chi pensa di non legalizzare la droga anche leggera, ha tutto il diritto di poterlo dire. Certamente non ha il diritto di essere definito un bacchettone. Ma non è vero, ma non è fuori dalla storia. Ma non è vero, però dai, va benissimo, non è infatti così. Non è legge, allora, infatti quella ancora non è legge, 20 anni che se ne parla. A me sta sui coglioni una cosa, la gente che chiede scuse il giorno dopo. Allora ti faccio un esempio, un signore a Legnano, un signore che ha una macelleria, un posto dove si producono delle carni, ha fatto un manifesto in cui c'è una donna circondata da pezzi di carne, e intendo pezzi di carne non del suo corpo, c'è lei vestita con la minigonna, con una bella ragazza bionda seduta sdraiata su un tavolo con delle carni appese e lei con in mano un coltello, e la scritta è: quando la carne chiama, Marchiante c'è. Marchiante è questa, ma chi è evidente, Marchiante? Marchiante è un tizio, Marchiante, che produce, dai, la carne, che una macelleria, che cazzo ne so, lo spot di un macellaio di Legnano. Questo ha dovuto chiedere scusa perché hanno detto che era una cosa sessista, no, ma di ragazzi, cattivo gusto, andate sessista, a fare male, in culo, basta con queste storie. È normale che ci sia la fotografia di una donna che è anche oggetto di desiderio con sessuale con la carne del macellaio, va bene, macellaio. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Questa modella se l'ha fatto, prende dei soldi, punto e basta, non si sente oggetto. Ma è normale che ci sia desiderio sessuale? Fosse stato un uomo, avrei detto la stessa cosa. Sì, ma mi pare di cattivo gusto. Ma perché però? Cattivo gusto? La carne si mangia, una donna si può anche mangiare, no? Non la mangi una donna quando fai sesso tu? O un uomo non, un uomo non viene mangiato, c'è quando un fa film sesso? Che, sì, che ma si chiama proprio la senso, carne, ma, appunto. Appunto, ma si è, la carne è strettamente legata al sesso come elemento, no, di adrenalina, di eccitazione, di possesso, cazzo, non si può dire che non è legato al sesso. Se tu metti una donna con la carne intorno e con la scritta "quando la carne chiama, Marchiante c'è", che è una brava trovata, una bella trovata, guarda, pubblicitaria, è il sessismo, ma c'è un grandissimo film di Marco Ferreri che si chiama proprio La carne, e questo chiede scusa, però. E questo chiede scusa, dai, su, basta con questa cosa di chiedere scusa per delle cose che sono normali, delle cose che sono normalissime e che vengono bollate come sessismo. È una promozione di cattivo gusto, ma mi che pare cattivo gusto, sì, in testa ce l'hai il cattivo gusto. Brutto, brutto. Luigi, provincia di Foggia, vai. Forza. Buonasera. Dimmi, Luigi. Allora, premesso che siete veramente strepitosi, sia con la musica. Dai, Luigi, forza, vai avanti. Lo sai che non bisogna dire queste cose. Su, al dai. Al dottor Parenzo, una domanda vorrei fare. Ieri anche io, no? È girata una foto scattata in una striscia di gas dove si buttano a terra le torri, le cisterne d'acqua. No, Luigi, non sento un cazzo. Mauro da Bergamo, dai, forza, andiamo avanti. Mauro da Bergamo. Pronto? Dimmi. Mi senti? No, ho tolto il viva voce. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, volevo intervenire sulla questione della bandiera nazista. Sì. No, nazista no. Prussiana. No, non è bandiera, una bandiera nazista. No, è chiaro che non è nazista, ma è usata dai neonazisti come tale, no? Quello che mi ha accertato è stata l'ignoranza del ministro Pinotti. Non c'è l'ignoranza. Perché non puoi definire una bandiera nazista? Hanno subito detto nazista, prussiana. Dai. Hanno subito detto bandiera nazista. L'hanno detta semplicemente perché, come potete vedere, in tutte le manifestazioni di questi neonazisti, la bandiera che svetta è quella. Non era in un luogo pubblico, ma era come nella no? camerata del ragazzo. Nella camera. Vabbè, uguale, ragazzi. Sempre luogo pubblico. È un luogo pubblico, cioè, le caserme sono un luogo. Quei militari, primo. Secondo, vai dai sindacati, trovi la foto di Che Guevara dietro e nessuno dice. Trovi che anche i busti di Mussolini, trovi anche i busti di Mussolini in giro ogni dai tanto. Dai sindacati cosa vuol dire? E perché questo ragazzo si mette una bandiera prussiana nella camerata e viene tacciato di nazismo? Infatti è una puttanata, ragazzi, che non sia nazista o fascista o con simpatia di quel tipo, non lo so. Non può fare la carriera per una bandiera prussiana, perché quattro ignoranti l'hanno presa per una bandiera nazista. Non è corretto. Ma guardi che l'hanno presa tutti per quello che deve essere, perché è usata dai neonazisti. Usata. Quella ha una storia. Non è usata, ma quella sì. Ma come mai i neonazisti, quando fanno le loro porcate, le loro manifestazioni, usano quella bandiera? Lei si è mai dato una risposta? Bandiere, usano soprattutto quella. Ma non ho capito, è vero, però. Ma non, non è vero. No, qualche gruppo la usa, è vero, però ragazzi, non possiamo, fare il processo alle intenzioni di quel ragazzo. Se quello là è un nazista, ha fatto propaganda dentro la caserma, allora venga cacciato. Altrimenti no, cioè altrimenti venga punito, perché non può esporre simboli anche nella propria stanza, non può esporre bandiere, simboli, fotomontaggi di Salvini, bandiere della Roma. Cioè, però ce ne sono tantissime di queste cose in caserma, nelle caserme ce ne sono tantissime di queste cose. Questo qua ha avuto la sfiga che c'è un filmato in una televisione locale di Firenze. Lo sanno tutti che i neonazisti tedeschi utilizzano la bandiera del secondo Reich, l'abbiamo detto prima, perché in Germania quella del terzo è vietata dalla legge, questo è il punto. Cioè, allora, siccome i gruppi neonazisti tedeschi usano quella, i gruppi neonazisti italiani usano la stessa cosa. Fermo lì. Il segnale orario vi è offerto da Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presento La Zanzara. Dicono sta cantando sto coglione. Italia, Italia, Italia. Disarticolato. Poi c'ha tre negre, c'è un altro negro. Qui non c'è nessun Italia, lui parla dell'Italia, ma non c'è niente. Per lui l'Italia sono i negri, sono gli stranieri, è il Papa Bergoglio, lo straniero. Perché lui questo è l'Italia. È Giovanotti da quel porco di Fazio. Giovanotti che parla d'Italia. L'Italia, non si capisce un cazzo, che cazzo, ma non c'è un italiano, solo, ma nemmeno lui è un italiano, Jovanotti, perché lui vive negli Stati Uniti con la famiglia, no? È andato via fuori dai coglioni, poi dice Italia è entrata africana, è entrata in Islam, è andato tutti quanti, un mondo colorato, spaccargli le gambe sarebbe un dovere. Shotgun is a good substitute for mouthwash. Questa gente deve ringraziare che io non sia un assassino. Perché le ammazzerei tutte. Arrivo a casa dopo 8 ore di lavoro, me lo faccio pure io un cannone gigante prima di cena, fanculo. A Lorenzo, fatta un'altra canna, ma non hai visto cucchiaie che c'hai? Caro David, siamo qui, tutto il paese parla della bandiera pseudofascista messa dal militare dentro una caserma. Normale. È una cosa anche ridicola, diciamo la verità. È una cosa anche ridicola. Le caserme sono piene di simboli, sono piene di bandiere, sono piene di altre coma. Ma Ci deve essere la bandiera d'Europa e la bandiera d'Italia, ma non è possibile. La bandiera d'Europa, la bandiera dell'Europa e la bandiera italiana, ovviamente. Io la bandiera d'Europa, lo sai che la bandirei, la bandiera d'Europa? La toglierei da tutti gli uffici. È obbligatoria in tutti gli uffici, perché facciamo parte dell'Unione Europea, per fortuna. Quindi. Allora, dalla vostra parte, scontro tra la signora De Blanc e il prete Biancalani, quello di Pistoia. La contessa De Blanc. Ma cosa ci fa la contessa in quel posto? Contro il prete che accoglie i migranti, Biancalani. Ma la contessa, cosa gliene frega la contessa? Io non riesco a capire. È bellissimo questo accoppiamento. De Blanc contro Biancalani. Senti. Secondo me lei ha messo su un bel business con tutte le pizzerie, le pizze, i codi, tutti i soldi che aspetti un attimo, mi faccia parlare, i soldi che lei guadagna da non queste cose con la carità cristiana. Io non ho messo nessun business. Ma le nostre chiese, i nostri spazi, non diciamo, aprirli ai musulmani non va diciamo, bene, perché loro hanno la moschea. Provi a farci andare noi cattolici nelle moschee loro. Veramente ci danno un calcio a quel posto. Io ne penso il peggio possibile, mi dispiace dottor padre Biancalani, però prima di tutto aprire una parte della chiesa per fare, per ospitare i musulmani, pensa se andassimo noi ci prenderebbero a calci nei fondelli. C'è anche un caso, credo, in provincia di Treviso, dopo una famiglia con un padre, una moglie, 3-4 figli, si trasferiscono provvisoriamente presso un prete e lasciano la loro abitazione ai migranti. Ottimo. Lasciano la loro abitazione ai migranti. Ma io dico, ragazzi, ma... cioè, questo è veramente puro esibizionismo. Io penso che sia puro esibizionismo. Se hanno la possibilità di farlo, l'hanno fatto. Ma io dico, ragazzi, ma con tante persone barboni che ci sono, italiani, per carità, gente del posto, perché uno deve lasciare la propria casa per darla ai migranti? Cioè, non riesco a capire, capito? Ma perché ti dà così fastidio? No, non mi dà fastidio. Perché dovrebbe essere esibizionismo? Se lo Stato deve provvedere, purtroppo, siccome fanno arrivare i migranti, provveda lo Stato. Ma una famiglia che si spoglia della sua abitazione per darla ai migranti, mi sembra puro esibizionismo. Dice, mi voglio fare bello, mi devo pulire la coscienza davanti, che ne so, se uno crede davanti a Dio, se non davanti al tribunale delle coscienze laico, non so cosa sia, ma è una roba che io trovo veramente di puro esibizionismo. Dico, infatti finisci sui giornali, cioè vado via da casa mia e non la do. Penso fosse questo l'intento di questa adorabile femmagliola, che ma ci sono tanti barboni, ci ricevuta, sono i barboni, dovrebbe essere ricevuta al Quirinale con già tutti stata gli onori. Ricevuta, ah, benissimo, credo ottimo, sia stata quindi... già ricevuta, credo. Bene, credo, bene, meno male. Oh, ha chiamato Donato. Donato, come andiamo? Beh, non è una novità, purtroppo. Come andiamo, Donato? No, andiamo malissimo. Che è successo? Che ottimo, è successo? Bene, andiamo malissimo. Andiamo malissimo per mille motivi. Allora, io vorrei parlare. La prima cosa, vorrei dire una cosa a quello, come si chiama, quella sorta di iguana. Iguana. Chi è iguana? Come si chiama? Cherubini, Lorenzo, quello che salta in maniera disarticolata. Sì. Quello che quando salta mi sembra orrendo, no? Tu, se vuoi vedere un uomo ballare, sì, e vuoi vomitare, devi vedere Jovanotti che salta. Ma adesso questo va de gusti. Al di là delle cazzate che sta cantando l'immigrazionista Jovanotti, con quei altri due caproni lì, Fedez e J-Ax. Ha parlato, ma chi sta parlando? Bono degli U2. Ma chi è questo orripilante? Questo orripilante campionare umano facente parte della musica leggera, che cazzo stanno alla musica, come non so io che te voglio dire. Come lo so, lasciamo stare. Ma perché hai visto che cosa? Hai visto Jovanotti sabato, domenica da Fazio? Che hai fatto? No, non l'ho visto, ma il Jovanotti, quello che Jovanotti, sono io andato a cagare. Allora, Jovanotti, sai cosa prendere? A cazzi, proprio i cazzi, sai che presenti i cazzi, no? I membri africani, no? Intelligente, che li faccio continuamente. Fissato per con questa cosa. Sapere, ma perché? Fissato, si vede che gli piace ad un altro. Quale mondo di merda? Lui fa un disco di merda. Vabbè, questo... Tifoso, lurido, perché? Se ne va su Rai 1, da quell'altro porco maledetto immobiliarista Fazio. Questi stanno facendo i padroni in Italia, hanno occupato i posti più strategici, questi sporchi che non pensano di... loro vedere un italiano, una povera vecchia che dorme dentro in un garage, per loro non interessa un cazzo, interessano i negri. Ma cosa dice, però? Ma guarda che veramente poverete, è in delirio. Mi hanno insegnato che si chiamavano neri, perché chiamavano neri. Ormai l'hai detto. Ma perché secondo te sono a favore dell'immigrazione questi qua? Beh sì, un po' sì, certamente. Tu dici Jovanotti, Fazio, favore, questi, che sono a favore, sono imbelli, sono schifosi, sono esseri immondi, soltanto per quel pensiero unico. Scusa, ma come fa questa persona qui ad avere una vita normale? Devono essere soltanto condannati. Scusi. Il fatto che additono, come scusi, anche quell'altro porco lì che ha fatto quelle puttanate che mandano. Signor Donato, come mi si scusi. Chiama Camilleri? Sì, no, Camilleri. Vabbè. Uno dei più grandi scrittori contemporanei. Però. Scusi. Ma come fa lei ad avere una vita normale? Una vita normale, come fa? 20.000 cooperative. 20.000 mai si sono che visti dati in Italia? Ma dove anche sti dati? 20.000 cooperative. Ma come, cosa ne sai? Che cosa? Per portarci l'Africa in casa ci stanno sostituendo. Ma chi? Io non sono io, quando parlo, ma lei magari la sostituissero, dico, ma non è che cosa mi scaccia. Magari sostituissero Donato da Varese, ma magari, perché io non mi sento nemmeno più italiano. Ma no, ma lei non si deve proprio sentire, cioè lei si sente, deve sentirsi un malato. Che è? Uomo di merda! Tu avrai avuto ancora il poco adesso. Tempo! Adesso ce l'ha con me. Vedi come quei tori, quando gli fai vedere il drappo rosso. I tuoi amici che ti fanno cagare in merda addosso agli italiani. Scusi. Quelli che hanno costruito. Signor Donato. Non sono stati certamente i partigiani a costruire l'Italia. No, chi è i stato? Partigiani chi è stato? Che sono pampati l'Italia. Avevo un amico che non sapeva neanche fare la divisione. Due. Scusi. Lo assunsi in una farmacia dove abitavo io. Che cazzo fai qui? È partito. Avete distrutto l'Italia. Avete disonesti. Donato. La state distruggendo. Ve la state mangiando. Lavia. Chi è Lavia? Che è? Ah, Gabriele Lavia. Sì, l'ottimo Gabriele Lavia, un grandissimo attore. Ma che è questo qua? Un grandissimo regista, grande attore. Scandalosa Gilda, una cosa simile. Sì, bellissimo. Scandalosa Gilda, meraviglioso. Lui sa recitare Shakespeare. Sì, certo, uno dei più grandi italiani. Un attore Shakespeare, attore, hai capito? Mille volte bombolo! Mille volte bombolo! Lo stigliolo che ci sono immagazzinati nel cervello un sacco di scritture. Ma questo è proprio stupido. Sono imbelli. Sono i disonesti. Ma perché lo citi? Per la cosa incredibile di questa trasmissione è che l'imbecille. Aspetta. Che è a fianco, questi qua si stanno arricchendo. Scusami. Questa è la trasmissione in cui l'imbecille viene trattato come il Nobel per la fisica. No, così incredibile. Però, scusami. Questa è una responsabilità oggettiva di far credere a questo idiota che chiama ormai costantemente di essere una persona intelligente. Questo è grave, coraggio. Capito? Guardami negli occhi, il suo parere non vale quanto quello di Nobbia. Chi ti ha mandato qui? Io voglio sapere chi ti ha messo a fianco a Cruciani. Cruciani è chi? Un milione di volte più di te. Cioè ogni tanto mi dà l'impressione che quel programma lo comandi tu. Perché Cruciani con la sua onestà non riesce ad andare fino in fondo. Non riesce. Tu vai oltre l'inverosimile. Sì. Perché sei un brutto bastardo. Mi spiega. Mi spiega. Sei miserabile. Mi spiega. Donato, scusami. Ma perché il Donato, suo scusami, parere perché deve il partito, essere aspetta. Uguale a quello di Carlo Rubbia? Perché, ad esempio? Perché il partito perché antislamico? Perché dobbiamo dare credito a questo imbecille? Perché? Perché, Donato, perché il partito antislamico non ti vuole? Voglio capire questa cosa qua che è importante da sottolineare. L'altro giorno ha detto che sei razzista, quello del il segretario lì. No, mi ha telefonato. Siamo stolendo al telefono. Ah, e allora si è convinto? Ti ha chiesto scusa. Sì. Questa è la notizia, questa è portata. Il partito antislamico, tu dunque ti accoglie, ti iscriverai al partito antislamico? Figurati, assolutamente no. Non so se mi accoglierà, se devo andare lì. Ah, lui mi ha detto ti scuso perché so che non sei un razzista. No, ma cosa io non sei? Sono un razzista. No. I razzisti sono i rossi. E la sinistra razzista è grasso, quel grasso lì. Grasso, ti vuole che fare c'è con la Falcone. Seconda dove carica dello Stato, cosa dici? Dove cazzo stava grasso? Quando Falcone chiedeva aiuto allo Stato. Allo Stato mafioso. Grasso, dove sta? Perché lo vogliono chiamare servitore della patria? Io sono servitore della patria, non grasso che ha mangiato col culo con la bocca attaccata alle mamme dello Stato. Adesso grasso si vergogni, sembra un po' sopra le righe politica e non lo come me. No, adesso quello è presidente del Senato. A me sembra una persona forte, più disturbata del solito. No, è il presidente del Vater. No, ma no, del Vater, del Senato, amico mio. Dai, adesso vuol dire che quello è il Senato. Tu stai dicendo che quello mangia nessuno, alle spalle dello Stato. Ma nessuno che fa niente per questo, per fermarlo. Sei tu il servitore, quello ha fatto. Gli immigrazionisti dovrebbero morire di fame. Vabbè, ho capito, amico mio, gli immigrazionisti, quello ha fatto il magistrato antimafia, eccetera. Ha difeso pure Falcone. Tu stai dicendo dove era lui? Ha difeso il signor Falcone. L'ho difeso io, Falcone. Ma tu, lui. Ma no, tu non l'hai difeso allora. Ma figuriamoci. Ma tu non l'hai difeso. Gratis. Vabbè, ciao, lui Donato. Lui è stato sempre pagato. Ciao. È un parassito. No, non è un parassito, è un magistrato. Torna in clinica. Quale, va, torna ciao, in clinica. Non è un cazzo. Non è un magistrato che degno di rappresentarmi. Ma come lui ce ne sono tanti. Ciao, ecco ciao. Perché l'Italia sta morendo. Ma sta male. Sta morendo. Gli italiani stanno morendo. Donato, porco maiale, ti uccido io fra un paio di giorni, non fra 30 anni o fra 20 anni, te lo uccido io con le mie mani. Con le mie mani. Coglione, che sei un porco, sei un pezzo di merda. Ti uccido io, coglione, fra un paio di giorni, te lo uccido io. Te lo giuro che te lo uccido io, pezzo di merda. Donato di cazzo, figlio di puttana. Te lo uccido io con le mie mani, pezzo di merda. Capito? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Caro Parenzo e caro Cruciano, cerca di far diventare questa una vera zanzara. Se no a questa zanzara lo sai cosa facciamo? Prendiamo il DDT e l'ammazziamo. E l'ammazziamo. Giuseppe, ciao. Vi ringrazio per l'affetto che mi state colmando. E a me l'affetto piace molto. Lo ricambio con tutto il cuore. Vi voglio bene. Noi siamo l'Italia vera, l'Italia pura. E dobbiamo combattere questi bastardi. Vi voglio bene tutti quanti. Mi state colmando d'affetto e io sono felice. Ti auguro una buona famiglia, una buona domenica. A te e a tutta la famiglia. Vi voglio bene tutti quanti. Mi state colmando d'affetto e io sono felice. Il signor Giovanni da Reggio Calabria. Ma bisogna spiegare, signor Giovanni, che quello non è affetto, quello sono infermieri in camice bianco che si occupano della sua salute mentale, che ovviamente è precaria in quanto questo si dichiara apertamente fascista. Quindi abbiamo mandato come zanzara delle unità specializzate in questo tipo di malessere e lo stanno curando. Quindi l'affetto è quello del sistema sanitario nazionale. Deve ringraziare la ministra Lorenzin che si è presa in carico questo caso assolutamente disperato. Allora ragazzi, mentre molti si agitano per questa storia della bandiera eccetera, su internet accade che alcuni montano una foto in cui Salvini è imbavagliato, si era imbavagliato Salvini per protestare non so su che cosa, e dietro ci mettono un drappo delle Brigate Rosse. La foto di Salvini imbavagliato con dietro la scritta Brigate Rosse ricorda, come molti di voi sanno, la prigionia dell'ex presidente della Democrazia Cristiana, esatto, Aldo Moro, poi ucciso dalle Brigate Rosse. Ovviamente lui dice adesso non vi indignate per questo, no, vi indignate, certo, per altre pessimo cose. Pessimo gusto per chi l'ha fatto, è veramente una porcheria assoluta, sì, un'ironia stupida e che offende prima di tutto la memoria di Aldo Moro, voglio dire, perché anche lì essere paragonato a Salvini mi pare davvero eccessivo. Beh, adesso questa mi pare veramente una cazzata quella che hai detto. Offende, cioè, no, offende, certo, prima di tutto Aldo Moro. Che cazzo c'entra Aldo? Assolutamente, offende sia la memoria di Aldo Moro. No, è così. Ma offende, che cazzo c'entra, te lo ripeto, Aldo Moro? E te lo spiego bene. Offende sia la memoria del tu hai detto del soprattutto la memoria di Aldo Moro. Certo, offende i familiari di Aldo Moro. Ma che c'entra? Perché si sentono presi in giro dal fatto totale che un pirla ha giocato con l'effigie di Salvini. E poi è brutta nei confronti di Salvini perché è una minaccia odiosa. Posso dirti una cosa? Stupida e veramente schifosa, ecco, questo. Cioè, posso dirti una cosa? Sui siti della Lega o vicini alla Lega, magari non fatti da Salvini, ci sono tante immagini anche truci. Io non capisco perché Salvini se la prende tanto per questa cosa, dicendo io denuncerò questo qua. Tra l'altro, uno degli autori di questo montaggio fa bene a denunciare, così capisce cosa vuol dire le campagne di odio. Sì, ragazzi, ma non è campagna di odio, sono dei fotomontaggi che esistono dappertutto. Non sì, ma nessuno. Il fotomontaggio in Italia, quello lì, è particolarmente odioso perché lo statista democristiano è stato prima imprigionato e poi ucciso dalle Brigate Rosse, che fanno parte della storia drammatica di questo paese. Quindi uno su Aldo Moro non si scherza. Ecco perché dico che la famiglia è anche colpita. Ma che c'entra quello? Ma non gliene frega niente a quelli. Da questa violenza fatta a quella icona, a quella immagine che ha scosso tutte le persone per bene in questo paese. Non gliene frega niente. Adesso tu, il primo pensiero che c'hai sono gli eredi di Aldo Moro. Guarda che sei curioso pure te. Per la tradizione. Comunque, uno di quelli che ha prodotto, ha postato su internet, come si dice in gergo internettiano, questa roba qui si chiama Codenotti. Tanto se voi andate a vedere sul profilo Facebook, adesso è più importante, più interessante andare a guardare i profili Facebook che non le pagine del Corriere della Sera. Cioè siamo arrivati a questo punto oggi nella società. Beh sì, assolutamente. Per uno che vuole fare informazione e comunicazione, vai a vedere le pagine Facebook, leggi il Corriere della Sera, non serve a uno stramaledetto cazzo. Spesso ma trovi tutte queste notizie, le trovi tutte sul Corriere della Sera. Ma quando mai? Dico il Corriere della Sera come per dire altre cose. Ma quando mai? Pubblica, cioè le trovi dappertutto. Codenotti, Codenotti. Sentite un po', chiamiamo un attimo questo Codenotti, sentiamo. Pronto? Codenotti? Chi parla? Qui Radio 24, buonasera. Buonasera, mi perdoni ma in questo momento non posso, sì, sto facendo delle cose al supermercato. No, assolutamente, volevo capire lei che responsabilità ha in questa pagina di Salvini con la scritta Brigate Rosse. attualmente non posso rispondergli, sì, perché sono occupato, sto facendo la spesa, non sono come Salvini che va in giro a cena, ha capito? Io devo... Va in giro? A cena, a farsi le cene e quant'altro, io mi devo fare tutto da solo, con mio figlio, sai come... Sì, scusi, uno può andare anche a cena, però non è che deve essere per questo messo con la bavaglio in bocca e con scritta Brigate Rosse dietro. Lei risulta tra quelli del team che ha postato questa cosa, Vento Ribelle. Ma guardi, io risulto in parecchie cose, della verità. Beh, insomma, lei voleva rispondere, quindi evidentemente c'entra qualcosa in questa vicenda, o no? Beh, io certo che c'entro in questa vicenda, se mi prende in ballo la pagina Vento Ribelle, certo che c'entro. Lei è uno dei responsabili di quella pagina? Sono un admin, sì. Dunque, l'ha creata lei quella roba lì o l'ha presa da qualche parte e ripostata? Beh, questa non posso dirglielo adesso. Come ripeto, se mi dà tempo adesso sono preso. Va bene, no, grazie, ma come un attimino. Sì, come vede, devo io pagare, no? Devo tirare fuori i soldi, sì, giù, no, come... portafoglio, paghi, perdona, paghi. Non riesco. La richiamo fra poco, ok, grazie. Vabbè, dopo chiamiamo, dai, Comunque, questo qua dice, sì, sono uno degli amministratori, abbiamo fatto noi questa roba qui, l'abbiamo postata noi. Male, male. Poi male, leggo da qualche parte, che ha detto è mio figlio che l'ha ritoccata. Sì, vabbè. Vabbè, ragazzi. Angelo da Pisa, vai, Angelo. Sì, pronto? Dimmi, Angelo, dimmi. Volevo dire di quella famiglia che ha preso, sì, gli migranti in sì, casa. Sì, sì. Quelli l'hanno fatto per soldi, quindi hanno 7 800 euro sì, migranti, se ne vanno gratis dal prete, ma meglio dire sì. È possibile, secondo lei è piace, possibile. Ah, secondo lei ci sono persone che gradiscono abbandonare la propria dimora, cioè non c'è mai secondo voi un aspetto anche positivo, no? C'è no, sempre dietro un'altra cosa. Ma se la casa ce l'avevano, ma secondo lei a una persona piace lasciare la propria casa e intascarsi gli ipotetici 35 euro per andare a vivere da un'altra parte da un prete? Allora, non ci può essere semplicemente una scelta anche etica di vita che si può anche apprezzare o anche deridere, per carità, però nel mio caso apprezzare, o bisogna sempre trovarci il marcio dietro anche i gesti di solidarietà? E poi perché? Voglio chiedere una cosa a Parenzo, no? Mi risponda. Io sono cristiano, se voglio diventare ebreo posso? Mm. Ma gli idioti non li vogliamo in genere, però se si vuole accomodare prego. No? Ma lei è un se po' idiota. Io no. Beh sì, certo, deve fare degli esami, deve studiare un po' di ebraico e poi dopo c'è un tribunale rabbinico che dice la religione ebraica è chiusa, non no. Si può convertire, deve studiare un po' di ebraico, però un po' di cose sulle feste lo può fare, poi si deve fare la circoncisione, hanno il lavoro, deve farsi la circoncisione, nel suo caso possiamo tagliarle i capelli che va bene uguale, possiamo chiedere una dispensa rabbinica e invertire l'organo da tagliare. Io non ho mai visto un ebreo che fa il muratore o che lavora in fabbrica, mai. Questa però devo dire che è un luogo comune, amico mio, e in Israele dove ci sono un sacco di ebrei, dove ovviamente ci sono un sacco di ebrei e c'è gente che fa ma anche in Italia, pieni di impiegati, lavorano tutti a convertirli, però diciamo questo: tra gli ebrei non c'è, questo so che scatenerà magari qualche risata, ma non esiste, c'è il tasso più basso di analfabetismo. Vabbè, questa è una cazzata, dai. No, ma sai perché? Perché, dimmi. Perché è obbligatorio in tutte le classi sociali ebraiche, dalle più umili alle più ricche, quelle di far studiare e far saper leggere e scrivere i propri figli. Quindi c'è storicamente il più basso tasso di analfabetismo. Esiste, ma rispetto a tutti gli altri popoli è il più basso tasso. Questo fermo lì. Viva la topa, Bravo. Allora, voglio provare a vedere, caro David, se tra i difensori del giovane carabiniere trovato con la bandiera prussiana, chiamiamola così, anche se utilizzata, come abbiamo detto, da gruppi neonazisti o da gruppi neofascisti nella propria stanza in una caserma di Firenze, c'è il generale Pappalardo. Pure, il generale dei carabinieri. Tu dici, perché lo chiamo generale? Tu ti incazzi ogni volta che io lo chiamo generale. Sì, non è un generale. È un vitaliziato, chiamalo vitaliziato, perché prende lui è un vitalizio. Esatto. Per la prima volta siamo stati noi a tirar fuori questa storia del vitalizio, con uno che faceva casino con i politici, che vuole cacciare tutti i politici, però c'ha il vitalizio in tasca. Vabbè, sentiamo un po' se appoggia sto cazzo di carabiniere. Avanti, lui è un carabiniere, chiamiamo Pappalardo. Pronto? Generale? Sì, mi dica. Sono Cruciani, come va? Ma sono stanco perché stiamo girando in lungo e largo per la penisola per dire ai magistrati, ai poliziotti e ai carabinieri che per il 380 del codice di procedura penale non dovrebbero arrestare i parlamentari non convalidati. Sì, mi sembra che nessuno gli dà retta, però, generale. Nessuno. E non lo so. Non solo le strutture sanitarie, sanitarie preposte. Lei non perda la speranza, perché c'è qualche procuratore che ci sta pensando sopra. E chi sarebbe che ci sta pensando? Scusa, lei vuole sapere troppo. Hanno avuto la nostra diffida, hanno chiesto tempo per rifletterci. È brutto invecchiare così, però, generale, è brutto. Invecchio facendo musica, lei non fa nemmeno musica. Però meglio che stare in giardinetti e andare in giro a sparare cazzate, Io apprezzo il fatto che lei per impiegare il tempo gira l'Italia sparando cazzate, chiedendo l'arresto dei politici. È meglio questo piuttosto che cadere in depressione e stare in una clinica. Bravo, io sono favorevole a questo. Dovrebbe lei arrestare i parlamentari, perché il 383 le consente di arrestarli. Il 383? Ma lei non lo fa perché lei deve sono le gocce che lei deve prendere. Zanzara, 383 sono le gocce che lei ha dimenticato di prendere. Articolo 383 del ma non è un articolo, è una medicina per sedarla. Dal generale dei carabinieri, ma non è caro più generale, non è generale. Uno è generale, sempre generale. Ma non è generale lui. Sì, però volevo chiedere una cosa su questa storia della bandiera tedesca lì nella caserma di Firenze. È molto semplice, se il ministro invece di fare caos avesse guardato bene la bandiera si sarebbe accorto che è una bandiera di guerra dell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale. Sì, sì. È una bandiera di guerra e lei sa benissimo che nei confronti delle bandiere di guerra si usa il massimo rispetto. Ora, se c'è qualche coglione di neonazista che la usa per i suoi fini, non per questo la bandiera di guerra perde il suo valore intrinseco. Che ci possiamo fare? Cioè, bisogna portare rispetto a quella bandiera, dice lei. Certo, è una bandiera di guerra, di soldati che sono morti per quella bandiera. Se c'è qualche coglione di neonazista che oggi lo utilizza e la usa impropriamente, noi che ci possiamo fare? Nel mondo ci sono anche gli imbecilli e teniamoci gli imbecilli. Ho capito, però la questione è che viene utilizzata oggi da gruppi neonazisti, questo è il punto fondamentale. Che vuol dire? Quel carabiniere là va cacciato o no, secondo lei? Secondo lei, se invece della bandiera che era esposta, questa dell'esercito tedesco, avessero esposto la bandiera rossa con farcia il martello di nessuno Stalin, avrebbe detto niente. Cosa, ah bravo, vede che lei sul mio stesso avviso, nessuno avrebbe parlato. Invece stavo parlando, è un povero ragazzo di 20 anni, e il ministro dall'alto del suo potere lo sta cercando di annientarlo, di farlo a pezzi. Non si fa così, non si usa questo atteggiamento nei confronti di un ragazzo di 20 anni. Il ministro si dovrebbe vergognare di chiedere la testa di un ragazzo di 20 anni, va bene? Questo ragazzo va difeso. Certo, io sono andato a denunciarlo, sono andato dai carabinieri. Ma denunciare chi? Il ministro della difesa, l'ho denunciato, sono andato lì e l'ho denunciata per diffamazione aggravata, minaccia grave e abuso d'ufficio. Sono andato dai carabinieri e ho fatto la denuncia. Ma lei denuncia tutti? Ma qui è il bue che dà del cornuto all'asino, ma che ma lei denuncia tutti? Pure. Io ho denunciato, scusi, uno che fa un lavoro, un errore di questo genere, che scambia la bandiera di guerra per un simbolo, no, l'hanno scambiata perché l'avrebbero dovuto all'inizio hanno detto bandiera nazista, è vero generale. Hanno detto bandiera nazista e non è giusto, non è corretto, si dovrebbero vergognare per quello che sta avvenendo a quel povero ragazzo. Devo dire la verità, su questa cosa qui non ha torto generale Pappalardo, caro Parenzo, perché intanto non è generale Pappalardo, semplicemente quella bandiera lì, l'ex deputato vitaliziato Pappalardo, parliamo così per essere chiari, non il generale, dice una cosa totalmente rinunciato, ma chi l'ha dal gatto, al gatto gliel'ha data, onorevole, su onorevole Pappa, dai, onorevole Pappa, nel senso di papparsi il vitalizio, onorevole Pappa, gli amici mi hanno detto che la chiamano Pappa nel senso di papparsi il vitalizio. Che vuol dire, scusi generale, che ho rinunciato, non lo prendo e a chi più lo dà? A chi lo dà? È andato al Movimento Liberazione Italiana di cui io non sono Movimento, ma non faccio parte, lo dia a me, ma lo dia a me, lo dia al movimento Parenzo David Premier. Lo dia a me. Lei ha detto che ha rinunciato, invece lo dà al suo movimento. Dai, generale. Mio, non è il mio. Ma io come sono, non è il suo? Io sono fuori dal movimento. Ma in quella intercettazione è chiaro che è una foglia di figo tutta quella roba. È suo il movimento. Su, dai. Parenzo, si aggiorni. E come faccio? Il presidente del movimento è il signor Giuseppe Pino. Io non sono il Giuseppe Pino. È una finta. È lei. Una testa di legno. Testa di legno. Ma c'è il presidente vicino a me che sta dicendo che lei è stato. Mi passi il presidente. Mi passi la testa di legno. Parenzo, abbiamo denunciato la sua amichetta. Chi è l'amichetta? Qual è l'amichetta? La sua amichetta, la ministra Pinotti, della difesa. Intanto Pinotti. Se dice amichetta è un po' grave, detto così. Ma dica le cose come scusi, sta. Ma lei adesso, il vitalizio di Pappalardo lo prende lei? No, lo prende il movimento. Ma è uguale, è come darlo a se stesso. No, è come darlo a se stesso. Pino, si vergogni pure lei. Si vergogna anche lei. Ma si vergogna, ma che cazzo ma si deve vergognare lei? Ma chi è lei? Ma chi è? Ma chi è lei? Pino, lei Giuseppe è? Pino, ma chi le è? Le sto dicendo che il vitalizio Pappalardo non lo prendi più. Ma lo dà al suo movimento, ma è la stessa cosa. No, si vergogni di avallare questa cosa, lei. Certo. Si vergogni. Poveraccio. Ah, io poveraccio. Ma ancora ti tengo là, ma ancora non ti licenzio, no? Ma chi licenzia? Ma sei scemo, sei? Ma come ti permetti? Ma ancora non ti licenzio. Ma come ti permetti? Vergognati. Come ti permetti? Ma non dire le cazzate. Ma come ti permetti? Cosa, io non voglio più parlare con questo. Ma chi sei? La testa di legno di Pappalardo. Scusa. Il presidente è un presidente di cosa? Voi non conoscete il presidente. Presidente di che cosa? Il presidente è un uomo molto concreto, sì, e dice pane, pane, vino, vino. E a quanto pare lei, Parenzo, si vuole prendere le brutte parolacce. E lei Galitelli lo conosce, Galitelli? Certo che lo conosca. Io ho solamente detto che Berlusconi è un pagliaccio, un buffone, perché quando propone un ex comandante generale dell'arma a capo del governo lo dovrebbe fare in maniera molto più seria. È un buffone, è un pagliaccio. Anzi, gli ho dato un consiglio. Siccome ormai lo vedo che somiglia totalmente alla mummia di Ramsete II, vada da un imbalsamatore egiziano diverso, che gli fa almeno una faccia diversa a Berlusconi. Scusi, lei si presenta alle elezioni, papà? Ho detto di no, perché il presidente del comitato dei saggi non si può candidare. Comitato dei saggi? Quali saggi? Non c'è nessun saggio là dentro. L'ha fatto lei. C'è un regolamento, o l'ho fatto chi? Io? Ma se siete in due, lei e quell'altro personaggio che è lì a intascare il vitalizio per conto del movimento. Migliaia di italiani, però fate le grandi inchieste. Arrivederci, generale. Non perdete tempo con il vitalizio di Antonio Intanto lei incassa. Intanto incassa. Arrivederci. Ragazzi, è incredibile, il generale Pappalardo, io lo chiamo ancora generale, Pappalardo, Parenzo ha detto di aver rinunciato al vitalizio, in realtà lo passa alla sua associazione, a quel signore che avete sentito prima, quella specie di testa di legno, signor Giuseppe. Ma lì sono Giuseppe. Il gatto e la volpe, quei due lì sono il gatto e la volpe, dai. Franco da Roma, vai Franco da Roma, incredibile. Mio caro, come che c'è state? Franco, che c'è? Avete tirato fuori questa storia della bandiera, prima nazista. Noi non l'abbiamo tirata fuori noi, cioè l'abbiamo tirata fuori qualcun avete altro. Avete tirato fuori che è prussiana. Sì, ma è vero, è prussiana, ma la bandiera. La cosa è vera. Assolutamente sì, è una bandiera di guerra prussiana. E allora? La cosa importante che dovete dire però è che ci sono stati almeno 140 giornalisti che l'hanno dichiarata nazista. Sì, è vero, no, i titoli. Ma non è i giornalisti. Questo dimostra un errore di fondo. Quanto i giornalisti al 98% siano imbecilli. Vabbè, questo allora la gente abbia gli occhi per guardare invece si accorge. Sì, però Franco, scusami, è anche importante capire come viene utilizzata quella bandiera, perché è vero che non è una bandiera nazista e molti giornali hanno titolato, molti siti, bandiera nazista in una caserma dei carabinieri. Uno dice, cazzo, una bandiera nazista, bisogna prendere subito provvedimenti. Poi si scopre che quella bandiera è una bandiera della Germania Guglielmina. Adesso utilizziamo un termine alto, ogni tanto no, andiamo alto. Una bandiera di guerra. Sì, una bandiera di guerra della Germania del 1918. Sì, contano guarda i fatti. Che nei musei italiani di bandiere di guerra tedesche. Lo sappiamo, ma nei musei è una cosa, in una caserma è un'altra. Un una sì, quantità ma lo sappiamo, industriale. Lo sappiamo perfettamente. Il piccolo dettaglio, quindi, se lei va a vedere, fondo, anche la svastica è un simbolo antico. Un anche tutti quei deficienti ma, giornalisti. Ma questo, a questo signore, scusi, ma perché non capisce? Degli imbecilli. Fermo lì, fermo. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi deve avere? Da lì. Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! Parenzo! Ehi, hey, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, ma con questa trasmissione della zanzara della minchia! La zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 7171 701. Lorenzo, fa più scandalo il post che hanno messo con Salvini al posto di Moro con le Brigate Rosse, o fa più scandalo quattro coglioni di Nazi Skin che vanno a leggere un comunicato che dicono che sono contrari all'invasione che stiamo subendo? No, dopo dimmi tu cosa cazzo posso pensare io, no? Io non voto Lega, ma tu che cazzo pensi nella tua testa piena di merda? Ma Parenzo, io mi sono dovuto sorbire 5 anni d'università con quegli stronzi dei collettivi che entravano ogni volta a rompere il cazzo durante le lezioni senza che nessuno potesse alzare un dito per dirgli che non potevano fare quello che cazzo vogliono. E mo per questi che entrano non danno fastidio a nessuno, tutti che rompono il cazzo. Ma andatevene riccamente a fanculo, va! Io comunque, ragazzi, non riesco più nemmeno a incazzarmi per alcune cose. Per esempio, l'utilizzazione, utilizzate la parola che volete, dell'espressione sessismo. Ormai per qualsiasi cosa. Quella storia che ho detto all'inizio della pubblicità di un commerciante di carni di Legnano. Questo commerciante di carni di Legnano, ripeto per l'ennesima volta, ha dovuto pure chiedere scusa perché gusto. Ma ragazzi, è una donna stesa su un tavolino per fare pubblicità alla carne. Ha una macelleria, cioè, capisci? Uso del corpo della donna paragonato proprio alla carne da macello. Scusa, perché non è carne? Mi sembra corpo. Una porcheria. Il corpo non è carne, noi cosa siamo? Ma certo che. Però ma cosa siamo? Siamo carne, cazzo. Carne. Per stupire uno può fare qualunque cosa per fare delle immagini sciocche. Ma cioè non può è sessismo, è carne, cosa. La donna, un uomo, siamo carne. La carne ispira desiderio, non c'è niente di male, non c'è niente di strano. Si può dire che è una brutta trovata pubblicitaria. No, non è, è bellissima, è stupenda, è meravigliosa. È una provocazione stupida, ma è molto facile fare delle provocazioni, è facilissimo, non Vabbè, è difficile. Allora, fai come ti pare. Quella è una cosa facile da fare. Sì, ma è sessismo. No, è una cazzata e basta, è allora, una cazzata cosa brutta. L'altra cosa volgare. È la pubblicità. Vabbè, l'altra cosa è la pubblicità di Pandora. La pubblicità Vabbè, di Pandora, quello, no? Quella fa ridere, quella che è ironica producono gioielli. Per me. Allora, sì. Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa le farebbe piacere? Cosa la farebbe felice? Questo è direi ironico e divertente, mi ragazzi, sembra. Anche qui accuse di sessismo. Il web, gente no, del PD, gente de sinistra, associazioni di donne. Ma non, mica ma sinistra, non rompete il cazzo, non rompete il cazzo a queste cose qui, non rompete i coglioni col sessismo, che poi perdete di vista il problema vero, che non c'entra niente con queste robe qui, non c'entra nulla. Michele da Treviso, vai Michele. Oh. Buonasera, chiamavo per quel professor Calò che ha ospitato i profughi. Sì. Io credo che sia solo una manovra per avere visibilità. Ma che visibilità deve avere il professor Calò? Non ho capito. Che tipo Calò di visibilità? È un mediocre professore. Ha nulla parlato contro la mediocrità. Che sì, io sta parlando Einstein. Ma lo conosci? Valori. Lo conosci? Siccome sì. È di Treviso, ah, lo conosci. Sta parlando no, fermi. Non è che conosco la famiglia, conoscevo il padre, so di dove viene fuori, non è che lo conosca. particolarmente bene. Non sta parlando Enrico Fermi. Sta parlando Enrico Fermi. Io sono un coglione, io sono l'inno della mediocrità. Meno male. Va bene. Meno male. Benissimo. Io non ho problemi. E allora, no, e allora lasci che un libero cittadino ma faccia il gesto. Lui, lo può giudicare. Sì, però, però stranamente si giudicano. Si tentano di giustificare gli episodi di violenza o di minaccia. Invece, questi episodi qui, che non fanno del male a nessuno, anzi, fanno del bene, vengono irrisi. Chissà come mai. Chissà come mai. Siete allora sempre pronti a telefonare per dire ma i nazi skin che fanno quello poco male quello... E poi quando c'è un signore che fa un gesto che non fa male a nessuno, che non entra nelle vostre tasche perché lo ha scelto con le sue tasche, ma perché le dà così fastidio? Ma perché le dà così fastidio che una persona faccia del bene? Ma perché le dà? Ha sentito il dovere di intervenire su questo e non sulle porcherie. Ma perché lei da cristiano si è sentito in dovere di intervenire su... Mi fai capire perché ti sta sui coglioni? Il vescovo ha ospitato questa famiglia all'interno della canonica con un prete. Bene. Fatto benissimo. Io aprirei tutte le canoniche, aprirei tutti gli oratori della provincia, d'Italia, per ospitare le persone, ma bisogna fare del bene in prima persona. Infatti quella persona, anche... quel ciccalò l'ha fatto in prima persona, ha dato la sua casa. Io vado oltre, ragazzi. Ma cosa ci ha guadagnato? Io vado oltre, però. Ma cosa ha guadagnato a lasciare la propria casa? Scusi, libri, conferenze, ma dai. Ma quali conferenze, cioè, quali libri? Che ne sa? Che ne sa? Lei, anche lei ha acquisito visibilità perché ha telefonato qui per dire una minchiata. Non voglio avere alcuna visibilità. E come no? Ha telefonato apposta. Io sono l'ultimo, io sono un mediocre. Ma questo adesso non si butti così giù. È probabile, ma scusami, scusa. Però rivendico la libertà del mio pensiero. Ma ci sa come mai di dire quello che siete penso sempre pronti a telefonare per sminuire gesti razzisti? Su questo, e invece quando c'è un gesto che non avrebbe neanche bisogno di essere commentato, perché è un bel gesto di un singolo cittadino che non pesa sulle casse dello Stato, non pesa su di lei e non rompe i coglioni a nessuno. Allora, è un bel gesto di un cittadino. Aspetta Michele, fermi un attimo ragazzi, qui non è che comanda, non è che c'è l'anarchia. Allora, per far capire alle persone dell'argomento di cui stiamo parlando, c'è un professore di filosofia in un liceo di Treviso che si chiama Antonio Calò, padre di quattro figli, che abita in un posto che si chiama Camalò di Povegliano del Trevigiano. Lui con la moglie Nicoletta si trasferirà a Natale a Treviso ed andrà ad abitare dal parroco di Santa Maria, che è un posto là di Treviso, perché la sua casa diventerà la casa di sei profughi africani. Pazzesco, di alcuni profughi africani. Allora, secondo me, che vantaggio ha? Non lo so, probabilmente avrà un vantaggio di soldi, probabilmente gli daranno dei soldi. Ma non secondo lo so te, rispetto a una casa, può avere un vantaggio di soldi, non che si compra so una fake news classica? Che è puro esibizionismo. Ma perché è puro perché secondo me è puro esibizionismo. Ma perché non si vede in modo positivo il fatto che ci sia la società civile? Perché non pensa che ai barboni, dello ai barboni stato, di Treviso? Ci sono dei barboni a Treviso, magari la gente pensato, alla Caritas. Che ne sappiamo, magari ci sarà anche gente di cui si è occupato. Bah. Albe, Michele. Immobile la donata ai profughi. Come Michele, scusa? È sua la casa rimane sua. È certo. Inuso ai profughi. Ti credo. È già un bel gesto. Beneficenza si fa nel silenzio. La beneficenza. Ma io non penso che abbia fatto una conferenza stampa per dirlo, Marco da Pisa, grazie Michele. Marco da Pisa, vai Marco. Dimmi. Oh Cruciani, amico mio. Che c'è? Allora, io sono il programmatore di Colo Salvini. Il poster. No, non ho capito, sei il programmatore di che? Di Call of Salvini, il poster che hanno trovato in quella caserma di Firenze insieme alle bandiere del Secondo Reich. Insomma. Ah, dunque c'era la bandiera del Secondo Reich, una sciarpa da Roma, mi sembra, una cosa da Roma, e poi c'era anche questa specie di immagine con Salvini che imbraccia un mitra? Esatto. L'hai fatta tu quell'immagine? Esatto, quello è il videogioco di Call of Salvini. E tutti i giornali che stanno iniziando a dire che quella che è cos'è una... sto videogioco? Spiegami che cos'è questo. Allora, questo è un videogioco, è un, diciamo, una sorta di Hunger Games con i politici. Cioè? Ci stanno tutti i politici della scena più trash italiana, c'è Salvini, c'è Renzi, c'è Grillo, Sgarbi. La scena più trash italiana, i leader politici italiani, poi perché sì, voi giustamente li riducete a macchiette. Sì, c'è Salvini lancia le ruspe, c'è Renzi taglia in due nemici con l'80 euro. Oltretutto, fammi parlare e Salvini che c'ha? Il lanciafiamme. lancia le ruspe, i tombini di Ghisa, lancia i gattini. Le ruspe, sì, è vecchio, l'ho visto già l'anno scorso, in quella vecchio, roba lì, no, che cosa c'è? Era 2 anni fa, caro, mi pare. Bravo, 2 anni fa, è vecchio, è vecchio. Marco, è vecchio. Voglio capire una cosa. Bella trasmissione di merda che hai fatto, È ogni vecchio. Volta, ogni occasione, sempre per parlare male dei videogiochi. È vecchio, è vecchio, è vecchio. L'ho fatto vedere 2 anni fa, l'ho fatto vedere in una trasmissione, io 2 anni fa. Ragazzi, ma perché vi accavallate? Oh, ma che siete scemi? Che non sapete i tempi di come cazzo si fanno le trasmissioni alla radio? Ma che siete matti? Allora, Marco, non ho capito che cazzo vuoi. Volevo dire che a me non me ne frega niente di quello che ha fatto Parenzo 2 anni fa in una trasmissione, capito o no? Dimmi che cazzo hai fatto. Un videogioco di satira politica e ora tutti i giornali, tutti i telegiornali stanno a mettere accanto quel poster lì. Cioè tu, okay? Ci hai chiamato per dirci che quella roba lì, quell'immagine lì che c'è... Che non è nazista, è un videogioco. Ma chi ha detto che quella foto di Salvini è neonazista? Nella tua testa bacata, Appunto. Nessuno ha fatto il collegamento tra quell'immagine di Salvini e neonazismo, amico mio. No, nessuno. Guarda, ma che cazzo c'entra? Amico mio, guarda, ma che me Facebook, ne frega di Facebook? A me, se c'era qualcuno su Facebook che dicono che bisogna stuprare le donne, che cazzo vuol dire? Scusa, no, lo so, però dato che comunque anche nei telegiornali ci sta dicendo. Vabbè, tu mi stai dicendo una cosa, hai chiamato per dirci che quell'immagine lì che c'è accanto alla caserma di Firenze, accanto alla bandiera neonazista, accanto alla sciarpa da Roma, c'è anche quell'immagine di Salvini con un mitra in mano, che, e l'hai fatta te, sei orgoglioso di averla fatta? Che è stata presa in primo piano da vabbè, tutti. Vabbè, d'accordo, lei sei orgoglioso. Ogni volta c'è l'occasione di mettere. Sei orgoglioso di avere fatto quella roba là, di aver fatto quel videogioco su Salvini? Sei orgoglioso? È un gioco che viene giocato tranquillamente. Sei orgoglioso di averla fatto, sì o no? Volevo anche fare un appello. Al Caramba di Firenze, sì? Che siccome... Allora, che appello vuoi fare al Caramba? Dimmi. Allora, se è nazista gli dico togli la bandiera e... questo non ti preoccupare, ci sono i suoi superiori che già l'hanno fatto. Poi? Esatto. Se invece è un trollone e gli garba a trollare su queste cose qua, non è che tutti fa la partita, ma non è che con Salvini, ma non è che tutti, ma non è che tutti stanno lì a pensare a trollare. Nella vostra mente malata, la gente sta la mattina alla sera a trollare su internet, a fare queste minchiate qua. Per carità, fai bene a farlo, ma adesso serenamente, con grande tenerezza, ti mando a fare in culo. Ciao, vaffanculo. Ma vai, vai. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Gente, mi fece fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Zanzara. Che ogni 2-3 Parenzo dice mi ha contattato Abdal, stu cazzo che dice mamma mia, sta sempre con sto cellulare a mano questo Abdal Rashpachim. Mi trovo in Thailandia, il sole, le palme, il mare azzurro, tutte cazzate. Il mio unico pensiero è mandare mia moglie a farsi 2 ore di massaggi così che posso andare a puttane anch'io. Parenzo, io sono della maggioranza silenziosa, però mia moglie non me la dà, cosa devo fare? Mi metto sull'amante? Non credo, vado a puttane, meglio, no? Parenzo! Che bello, mi sto mettendo il Dilatan, quello più grosso. David, amico mio. Cosa stai facendo? Stai usando che cosa? Se ti un salame, ti vedo nel video qua. Un salame meraviglioso. Mamma mia, non sai, me l'hanno portato gli amici friulani qui che sono qui dietro. Io non mangio il maiale, ma insomma, bene per te. No, io mangio poco salame anch'io, devo dire la verità, però questo qua mi ispira. Io mangio il salame kasher, quello sì. Fatto perché normale. Tu sei riccione, tu sei. No, vabbè, non no, è quello il motivo, ma non importa, insomma. Mamma mia, ragazzi, questo è un salame splendido. Mi dicono addirittura che il maiale. Ma fatto no, la marchetta. No, che marchetta? Hanno portato la roba qui da mangiare. Che cazzo dici? Quale marchetta? Cos'è? Achille Lauro. No. Cos'è Lauro? Che arriva, ma che roba è? Il pacco. Che Casa Pound. Ti hanno portato il cibo quelli di Casa Pound. No, no, devi sapere che mi hanno riferito che questo maiale con cui è fatto il salame, questo salame qui. È Mauro da Mantova. No, realtà. È un maiale di malga che sta 4 mesi a riposare. Benissimo. In malga. Siamo felici. Prima, però, di essere giustamente macellato. Beh, quello è il cioè, suo questo destino. È il punto. È il suo destino. Il destino è il essere destino. Macellato. Sta in malga. Io non riesco a capire come fanno a sopportare nel centrodestra la signora Brambilla. Ogni tanto me lo chiedo. Com'è possibile che nel centrodestra. Sono voti, vecchio mio, sono voti lì, perché ci sono un sacco di animalisti in Italia. In realtà per esempio, sono voti. Per esempio, una persona diciamo, di formazione di destra. Proprio di destra, come uno a caso dico, come il vicepresidente del Senato, il signor Maurizio Gaspari, che è qui collegato con noi. Sì, allora ti dico buonasera. Una cosa. Buonasera, buonasera. Sì. Come fanno a sopportare nel centrodestra? Io dico, con tutto il fatto che uno deve prendere i voti, eccetera, l'animalista Brambilla, mi dica una parola di conforto, perché? Ma perché? Guardi, perché? Io non sono animalista, ma ho due cani a cui voglio bene. Vabbè, ma che c'entra questo? Tu poi equilibrati, io non condivido alcune estremizzazioni. Ho però siamo un po' una grande arca di Noè, siamo una grande. Quello l'ha detto Grillo, però. Arca di Noè l'ha detto Grillo. Lo so, ma l'arca di Noè è stata fondamentale. Cioè, Grillo ha detto. Non si sarebbe salvata. Allora, Grillo ha detto: noi dei 5 Stelle siamo un'arca di Noè di disadattati. L'ha detto. Noi non siamo disadattati. Siamo loro un'arca sì, di Noè questo. Di diverse. Loro sì, però. Loro sì, l'arca però. L'arca di Noè ha salvato tutto: c'erano le giraffe. Sì. I coccodrilli, i leocorni, gli umani, i maiali, il leocorno, il cane, il gatto. Quindi diciamo io non sono un estremista. Mamma mia, non apprezzo i vegani, su questo la penso come Bruciani. Poi i cani in casa mia contano più di me, quindi pure. Vabbè, ma questo adattare. Ognuno ha in casa fa quello che vuole, ma ragazzi, ma la signora Brambilla che vuole mettere in costituzione gli animali come gli esseri umani, ma di che stiamo parlando? Ma sono già le leggi sono a tutela. Cioè, se poi vengono approvate. Ma che figuriamoci se vengono approvate. Allora, io voglio parlare di una cosa. Cioè, ho letto una cosa di Veltroni. Ma come sta Gasparri? Era tantissimo che non lo sentivo, Gasparrone. Perché? Ma mi chiamate perché sta sempre in televisione, No, cioè, ma quando? Ma come no? Adesso non mi dica che la chiamano poco in televisione. Insomma, ogni tanto. Ogni tanto, sì, così. Voi non mi chiamate, io sono un vostro simpatizzante. Allora, sono nella sigla con le parolacce, però nel programma. Certo. Assolutamente, ormai quello è diventato un must assoluto. Lo sai? Lo sai, sì, è vero. Pure, lo sai, pure. Lo sai Maurizio sono che in mi beneficenza. No, ma lo sai che cani. Mi dicono ogni volta che vado in giro, mi dicono "Ah, quella roba di Gasparri contro di voi è stata una delle robe più belle. Più straordinario, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Allora, no, perché era vera, più che altro. A me non piacciono le cose certo. Finte. Dunque, era vera, era una diatriba violenta che abbiamo avuto ed è stata bellissima. Poi ci siamo chiariti. Ma sì, va bene. Allora, si è parlato molto nel weekend della marea nera. Veltroni ha detto: Parenzo, adesso abbi pazienza. Sì. Però la ho marea letto nera, Veltroni. Ho la letto marea Veltroni. Nera in Italia, il pericolo sì. Fascista e nazista in Italia. Io lo chiamerei un rigurgito più che ma altro. Ma quale dei movimenti di estrema ma destra. Ma serve ai giornali, ma serve a noi che per divertirci. Io dico una cosa molto, molto semplice. Do atto a un movimento come il Movimento Sociale Italiano che ha avuto un grande leader come Almirante, peraltro, che era in Parlamento. Ma tu, ma la per il culo ogni volta Almirante? Ma lo posso pigliare per il culo da avversario, però ne riconoscevo comunque vabbè, la allora grandezza, perché è sicuramente è stato un grande leader politico, questo allora non c'è un po' di dubbio. Ma quel Movimento Sociale lì ha fatto un percorso di parlamentarizzazione. Ma lo ma ha che fatto c'entra nel questo? Corso degli anni. Ma la marea nera, c'è la marea nera, adesso non da fare lo storico. Da movimento che nasce sì, che ma nasce non fare lo storico alle 20 e 20, non ce ne frega Repubblica niente, Sociale dai. Italiana diventa un movimento parlamentare. Ma perché? Ma c'è la marea nera adesso? Ci c'è la marea nera. Ci sono dei movimenti extraparlamentari a destra che non hanno fatto su alcun tipo di percorso. Scusi, democratico. Quella bandiera lì, che bandiera è? Gasparri, quello del il carabiniere allora, va cacciato. Non era la bandiera di Hitler, però tuttavia, pur essendo una bandiera del secondo e non del terzo Reich, chi la usa deve capire che male si presta a questi equivoci. No, capire, in Germania lo fanno apposta. In Germania lo fanno apposta. Io glielo dico con chiarezza. Ma va cacciato? Dopodiché mi chiedo, andrà incontro alle sanzioni. Secondo lei va cacciato? Che ci sono. No. No, non lo so se deve essere cacciato, ci sarà un regolamento militare, ci sono altre questioni da valutare. Dopodiché io mi chiedo una cosa però, fermo restando che quelli che vanno a leggere il programma sono degli idioti, fermo restando che la bandiera e anche il poster del fotomontaggio di Salvini col mitra è una cosa sbagliata, metterlo in mostra. Ma com'è che quello ha fotografato la finestra? Secondo me qualcuno della caserma gli ha segnalato questa cosa. Vabbè, perché quello... secondo lei la gente gira fotografando le finestre? No, quello è sicuro, quello è sicuro. Quello è sicuro. Dopodiché, allora andiamo a vedere anche tutti i camion, dentro i camion che c'è attaccato, nelle foto che ci sono sulle piattaforme petrolifere. Poi quella è una caserma dei carabinieri e ci sono delle regole. Valuteranno. Anche se è una camerata interna. Dopodiché, se... sì, dopodiché io dico che per esempio quelli tipo Como, no? Che mi sembra già un fatto più grave, fanno l'errore, oltre che di andare in un posto privato a fare quel programma, di dare alla sinistra la stura per parlare della marea nera e dell'Italia come la Germania del 32. Ma la sinistra sta perdendo, sta alla rovina. Sono degli idioti, gli danno un argomento per rilanciarsi facendo queste bravate che non hanno senso. Non sia pure, ma lei lo prenderebbe il voto di quelli là, il voto di quelli skinhead? No, sinceramente, altro quelli non mi voterebbero mai a me, perché mi considerano un traditore, perché io non faccio cose del genere. Io sono contro lo Ius Soli, ritengo che sia una cosa sbagliata. Ma perché fare il programma? Fai un volantinaggio. Io ho criticato le ONG, io ho fatto votare in Senato un regolamento per limitare i loro trasporti di clandestini. Esattamente, ma come questo è vero, ma quelli vanno messi fuori legge. Esattamente come le Brigate Rosse consideravano traditori quelli del PC, è uguale ma la cosa. Ma quelli, ma scusa, le Brigate Rosse, però Parenzo, questi le Brigate Rosse sono dei poveracci, potenza, dai, su. Avevano una potenza militare pericolosa. Questi sono veramente dei poveracci, secondo me. Dopodiché, la cosa grave, ma questi è vanno che sciolti? Vanno che... sciolti o no questi qua? Allora in Italia c'è la legge Mancino e la legge Scelta. Siccome da noi hanno detto, siccome da noi ha detto, siccome da noi il capo di questi qua, ieri Renzi l'ha anche evocato in una trasmissione. Ma guarda, io non so se rimanda Renzi questi, se non avendo niente da dire alla sinistra, mi viene il sospetto che loro sono contentissimi che ci siano quattro idioti che non sono in grado di smantellare. Addirittura, addirittura. No, lo dico così come paradosso, però alla fine a chi fanno comodo queste cose, queste dice a Renzi per dire c'è il pericolo fascista. Adesso ha detto la marea nera, io oggi ero in una trasmissione televisiva, uno ha detto sembra la Germania del 32 l'Italia, ma non sembra la Germania del 32. Ma c'è una l'Italia. Marea nera che è l'immigrazione invece? Questo quella dici? Allora, quella è la marea nera? Allora, l'immigrazione incontrollata dà la stura anche a gruppi estremisti, quindi dovrebbe capire chi ha portato tanti clandestini ma in Italia, non c'è nulla di incontrollato, che coltiva la malapianta dell'estremismo. Vabbè. Questa è la realtà. Senti, quindi allora blocchiamo questi arrivi e l'Italia e l'Europa saranno condizionate da questi. Senti un attimo, ma hai visto ieri Fazio, Maurizio? No, ma l'hanno raccontato di questa uscita. Noi non vedo Fazio, lo vedono pochi Fazio. E quindi io non voglio affollare la scatola. Mi hanno detto di questa performance che mi ha molto rattristato di Jovanotti, che è un cantante che pur essendo di sinistra io apprezzo e che fa anche delle belle canzoni. Di sinistra o di destra? Certo, non c'è dubbio. Però ha fatto questo strano spot sulla legalizzazione della droga. Dove ha detto? Da quanto mi sono fatto non ho mai fumato. Si sente quasi in colpa perché uno che canta e gli piace la musica Jaime Cana, poi si sente quasi in colpa. Dopodiché, caro Jovanotti, non ti sei mai drogato, la droga fa male. Perché devi fare questo spot per dimostrarti? Ma lui ha detto solo legalizzazione. Allora, uno che non si droga dovrebbe sapere che la droga fa male, credo che sia anche un padre. Ho capito, ma la legalizzazione non è che significa che ti devi trovare per forza. Per la legalizzazione è a favore della droga, una cosa sbagliata, perché la droga fa male. Sì, detto però Maurizio, non per tornare sulla stessa cosa. Non ti voglio dire le parolacce. Però. No, ma non per tornare sulla stessa cosa. Però non è che se uno è a favore della legalizzazione, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Parenzo sì. Certo. Ma è una tesi sbagliata, perché la droga fa male. Ma ho capito, ma non è che uno... ha detto una idiozia. Tanto si chiamano droghe leggere. Primo, si chiamano droghe leggere. Le droghe fanno male perché contengono il principio attivo, il tetraidrocannabinolo, che è dannoso. È una cosa che non fa bene. Ma dipende qui. Dipende che cosa fumi e quante fumi. Se tu fumi una canna una sola volta nella vita non fa niente, un consumo abituale soprattutto ma oggi, dipende che tipo di canna, come di tutte le allora, cose oggi, come per tutte le cose c'è più principio attivo. Ma anche l'alcol, anche l'alcol. Ma fa male pure l'alcol, ma qual è la differenza? Che qual dell'alcol è? Fa male un abuso, della sostanza stupefacente anche un costante normale uso, ma crea dei danni. È uguale, mentre dai, un bicchiere di vino al giorno non fa danni, una canna al giorno può fare danni, l'è dimostrato, ma no, scientificamente. Ma molta gente dice che non è vero, dipende che cosa ma fumi, no, che cosa non fumi. Gente, gli idioti dicono che non è vero. Ma come gli idioti? Saviano. Già siamo in querele con Saviano, lui ha querelato meglio lui, quindi non faccio giudizi su Saviano. È pieno Saviano di medici Saviano, che ha un giudizio diverso da quello di Gasparri sulle droghe. No, non ci sono medici che hanno un giudizio diverso. Pieno, infettiva, pieno, pieno. E disonesti. La medicina, ma non è vero, è pieno di gente, è pieno che le droghe ma non è dire le droghe, non è che la marijuana, molti medici dicono che sì, ma se qualcuno l'assume in maniera, come dire, non facendosi quattro canne al giorno, fa molto meno male dell'alcol, di uno di un uso. Ma dipende sempre dalle quantità, anche una canna al giorno fa male perché contiene un principio attivo che ma che dovrebbe fare la RAI? Dovrebbe riparare a questa cosa? Dovrebbe di sconsigliare l'uso della droga, no. La RAI dovrebbe cacciare Fazio per quello che gli costa e i danni che fa. Lei lo sa che Fazio, con gli ascolti bassi che sta facendo, sta creando dei danni sotto il profilo dei proventi pubblicitari alla RAI. Loro dicono quindi di non no, dovrebbero cacciare per ma è così. Ma allora va cacciato il direttore generale, allora Fazio, va cacciato il direttore generale. Guarda, il direttore generale sta sbagliando con Fazio, se non correggerà poi ognuno raccoglie quello che semina. Se lui fa Rai 1 in questo momento sta in coma, tra Neri Marco Re che ha fatto il 10% il sabato, le parodi che sono un disastro, Fazio che è un disastro, tra poco se vedranno andare perché cioè, lo farebbe meglio lei pubblicitaria fallimentare. Lo farebbe meglio lo lei farebbe meglio chiunque. Anche poi lei. Fazio che propaganda la droga è uno che forse gli piacerebbe drogarsi per dimenticare il flop che ma sta no, facendo. Ma no, non esageriamo, non propaganda forse nessuna droga, sì. Fazio, ma questo ma Fazio, non diciamo, guardi, non diciamo allora, cose se, allora, come Fazio, al solito oltre quello le righe. Che tocca rovina, quindi se tocca la droga la rovina, e per fortuna quindi se faccio per la droga vuol dire che farà danni alla droga, e da qualcosa sono contento perché sono contro la droga. Sì, ma perché invece sì, questo non è male. A proposito di legalizzazione, perché invece non fate una bella proposta? Ormai siamo invece di dire sempre le stesse cose sulla legalizzazione dei bordelli, e sarebbe eccezionale. Ma nostra guardi, vecchia battaglia. Sono 30 anni che se ne parla, non passerà mai. Ma io sei a favore tu o no? Mori, sei a favore? Perché sì, non sì, sarei favorevole, ma è tempo perso, non passerà mai. Quindi perché non passerà cose mai? Perché non c'è il clima, perché ogni volta scoppia un dibattito, allora volete la prostituzione come se poi non ci fosse. Quindi alla fine non passerà cioè, mai. Cioè tu saresti a favore per i vecchi come bordelli addirittura? Per i vecchi no, io dico che la prostituzione in questo caso è innegabile, non è scomparsa attraverso la chiusura delle case chiuse. Riproporre però è tempo perso, punto. Ma e non tempo perdo perso. Tempo. Ho capito, non ci perdi tempo, però non ci perdo tempo, ci sono altre priorità. Intanto gli imprenditori italiani vanno in Austria, Slovenia, dappertutto dove si può tranquillamente aprire una casa, e noi diamo soldi, e noi diamo quattrini, e noi diamo quattrini. Io mi concentro su altre cose, ognuno sceglie degli argomenti. Vabbè, mi batto contro le droghe, altri si batteranno a favore delle case chiuse. Vabbè, ciao Marì. Ma si deve occupare di tutto. Ciao Marì. E ciao. Non drogatevi. Ciao. Saluti. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo. Vibratore, vibra non ti fermare. Parenzo. Vibratore, vibra non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vive nel cassetto, troppi sogni da realizzare. A me fa cagare. Se la noia galoppa ti viene incontro la tecnologia. Parenzo. Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Mi piacete perché se cerchi il peggio che c'è in Italia oggi, basta sintonizzarsi su Radio 24. Eccoci qui, siamo noi, il peggio del peggio, caro David. Molto il peggio, peggio del peggio. Molto peggio. Ma siamo meglio di tanti altri perché siamo veri e facciamo entrare in questo meraviglioso bordello pure Lores da Vicenza. Eccola lì che ha chiamato, io l'abbraccio fortissimo, ha Lores, chiamato l'indipendentista veneta, ti abbraccio. Vai Lores, vai, perché hai chiamato? Si vai, attacca scatenati. La polenta, attenta che si attacca la polenta alla pentola, forza, dai. Ciao, sì, ciao, Cruciano. Ciao, Lores, ciao, ciao, ciao. No, io a te Giovanotti non si droga, non si è mai drogato. Dice che non si è mai drogato, non si è mai fatto. È nato così. Cioè, tu dici è nato sbagliato, dici. Cioè, è così perché è sinistro, cioè il cervello sinistro, perché è un deficiente così di natura. Non è che è un drogato, normale. Pare che non sia. È nato che sembrava normale, insomma. Ecco, ma perché, perché ce l'hai con lui, dimmi? Ma dai, poro. No, poi la cosa bella, letto, la cosa bella da chi viene la critica. Cioè la cosa interessante è da chi viene la critica. Per Stalin, a Castro. Per Stalin, per il Stalin. Professore. Sì. Sì. Ah. Tu dimmi che la trina ideologica sta nelle scuole. È un tema attuale, questo è un insegnante di liceo. Sì. Dimmi quanti danni fa quel barbuto sceno comunista di merda. Tu dici quello di Treviso. Ha quattro figli. Ma dimmi se una persona. Dimmi se io oggi dico a mia figlia: andiamo via di casa. Sì. Che qua vengono gli invasori colorati. No? Non ti preoccupare, nessuno ti chiede la casa. Ma non ti preoccupare, nessuno la chiede. Ma è quella catapecchia là. Quella palafitta, nessuno la chiede. Quella palafitta, nessuno gliela chiede, signora Amlores. Ha detto ospita sei coglioni comunisti a casa sua, però non ha mai visto un italiano. Che dorme per strada. Ma lei ospita un italiano? Ma lei perché non ospita un italiano? Sciocca! Perché lei non ospita un italiano? Ospiti un italiano lei, Lores Darkais. Ospiti un italiano in quella topaia dove vive. Lores, sono fiera del mio cognome. Cloro lei, è il cloro da Vicenza. Cloro da Vicenza. Può ospitare lei un italiano? Ospita un italiano. Ospiti un italiano. Lores, ospiti un italiano. Italiano bianco, ospiti un italiano in quella catapecchia, l'ospiti. Ma perché non lo ospita, porca puttana? Ma cosa ospiti un italiano? Tu, coglione, cosa faccio ma lei io? Ospiti un italiano indigente? Ma giornali con i comunisti di merda. Ma ospiti quello uno. Dovrebbero cacciarlo, controllare cosa fa a scuola. Ma quello chi? È malato. Ma adesso lei non si occupa. Non si ma adesso non è che sta parlando una signora sana di mente. Ma in mano agli invasori negri. Ma non lasci stare gli invasori. Ma lei non perché non normale. Ospita un bisognoso veneto? Lei, anziché rompere i coglioni magari, e telefonare magari, qua, magari lo fa. Perché magari lo fa. Ma figurati, è gelosissima delle sue quattro garabattole che ha. Ma sai tu, merda, d'un magari con i suoi, magari alto, con i suoi veneti. Cazzo. Magari con i suoi veneti farà della generosità, farà della beneficenza. Ma figurati, ma neanche il baccalaglio fa i veneti lei. Con la sua terra farà della beneficenza. Che cazzo ne sai della vita di Ores? Ma quella sta asseragliata lì in casa con la polenta. Posso parlare o parli tu col coglione lì perché mi ti saluto, Dimmi, dimmi. Ah, bella cazzo, minaccia, porca miseria. Dimmi se sì, dica, è signora, normale dica. Quell'uomo là, dimmelo. Ma è normale lei, signora? Ma cosa dice lei se è normale? Il coglione di un ebreo di merda. No, che adesso, non questo che c'entra. Capisci, il capisci professore di filosofia, che c'entra? Tu dici che il professore di la filosofia non è no. Professore di filosofia, insegna liceo. Ma lei cosa insegna, signora mia? Cosa fa lei nella vita oltre a cucinare la polenta ottima? Cosa fa? Perché è così arrabbiata tutto il giorno? Ma qualcuno si occupa ha di lei? Ha sentito perché questa è così notizia arrabbiata? Si è incazzata. Ma lei ospiti un italiano, un vicentino, uno di Tiene? Ma non sai chi ospito io? Ma lei non ospita merda, nessuno perché è una persona brutta. Della merda. Brutta persona. Scusami, ma lei. Questo qua però è Veneto, ti voglio segnalare. Scusami. Sì, no, beh, questa toglia ciao è Veneto però. Sì, cioè, no, ma non sì. C'entra niente, è nato per sbaglio. Ah, è nato per sbaglio. Cioè, è nato qua per sbaglio. Per cioè, sbaglio guarda sì. Che non tutti i veneti. Beh, calò magari ti dico una cosa. Magari c'è uno di Napoli che si è trasferito qua vent'anni fa è veneto. E magari c'è un coglione di merda che è nato qua che è peggio di un italiano. Veneto è chi Veneto fa. E quello lì è un coglione di merda che vada in Africa, quella merda. Antonio Calò, effettivamente il cognome non è molto veneto, signor Calò. Lores, come si chiama di cognome? Io non sapevo invece neanche come si chiamava. Dalzotto. Ho visto la fotografia, ho capito Dalzotto, tutto. Dalzotto, sì, è un cognome veneto. Dalzotto, hai capito? Certo. Fidel Castro. quello lì devono controllarlo, non è normale, quello lì non può insegnare parlando, in una non sta scuola. Parlando, segnalo agli ascoltatori che non sta parlando Pasteur, sta parlando una signora imbecille, ormai conosciuta alle cronache della Zanzara, tal Lores Dalzotto, in provincia di Vicenza. Non è Pasteur, non è Pasteur, è una mai poveretta, detto, è una poveretta. Chiamo Lores Dalzotto, sono fiera Dalzotto, chiamatela, chiamatela a casa. Fiera. Amici della maggioranza silenziosa, cercate questo numero sulle pagine bianche, chiamatela di notte, non di giorno, rompetela i coglioni, chiamatela, chiamatela. Ciao Luciani, ciao, tienti lì la tua merda che mi ciao, per ciao, tanto, Lores, ciao. Ciao, ciao Lores, ciao. Allora, mi scrivono, io sono stato consumatore di erba da 20 anni, cocaina, eroina, MDMA, ecstasy, acidi, funghi, saltuario e purtroppo alcol. Invito questo ascoltatore a chiamare assolutamente, lo sapete per quale motivo sono finito in 5 psichiatrie, 2 cliniche psichiatriche, ma una comunità... Ma chi la Lores questa? No, è uno, non c'entra niente la Lores che non ha mai toccato una droga in vita sua. 2 cliniche psichiatriche... Beh, sai che farebbe male? Ha fatto male, secondo me. Se avesse... Cioè, faceva meglio a drogarsi. Beh, se si fosse fatta un bel castelletto, una cannettina, una robettina... Cos'è il castelletto, scusa? Dopo te lo spiego. Castelletto si faceva tempo fa, cioè quando tu mettevi insieme 2 cannoni sostanzialmente legati un po' a castelletto e quindi ne aumentavi il potenziale. Si chiamava come, castelletto, come sei lo esperto, chiamavamo. Come sei esperto? Te lo dico, no. Lo chiamavamo il castelletto. Lo chiamavamo il castelletto. Come direbbe, come direbbe Capanna, lo chiamavamo noi. Lo chiamavamo naturalmente il castelletto. Eravamo a occupare le università in modo meraviglioso. I professori e i rettori, soprattutto, scappavano come conigli. Ogni tanto facevamo il libero amore all'interno di queste meravigliose aule e poi chiedevamo per tutti il 6 politico. Era un anno meraviglioso, infatti ho scritto un libro che si chiama Formidabili quegli anni, altro che quel mefitico. Fumavate anche fumavamo delle canne straordinarie, le rollavamo all'interno delle università, naturalmente, non c'è dubbio. già sta top, rega, quindi fa un'altra aspirata, vai, un'altra aspirata, vai. pesante. Allora, proviamo a richiamare quello là che ha fatto il post su Salvini, quello con le Brigate Rosse, là, Codenotto, là, come cazzo si chiama, vai. Pronto, eccomi. Ecco, Codenotto, allora, chi è che ha fatto materialmente quella immagine, chi ha prodotto quell'immagine di Salvini? Questo non lo posso dire, penso che ci sia sotto un'inchiesta. Sì, d'accordo, ma lei ha scritto che è stato suo figlio. Ma è una battuta questa. Qualche ora fa ha scritto: Salvini, ti scatti le foto e poi non è colpa mia se mio figlio è bravo a ricamarci. Cioè, la scritta è Brigate Rosse dietro, quel drappo lì l'ha messo lei, suo figlio, chi l'ha messo? Ma non lo so chi l'ha messo, io solo visto. Ma perché una hai foto scritto tuo figlio? Perché in hai scritto nel web, adesso le spiego, io ho visto in giro la foto nel web e caso strano dopo è finita in pagina, ma questo non lo so. No, ma con dietro le Brigate Rosse, scusi, non faccia, cioè non venga a rubare a casa dei ladri, perché noi non è che siamo nati ieri. Lei deve dire chiaramente, quella foto lì che ho scritto Brigate Rosse con Salvini imbavagliato, quel montaggio l'ho fatto io, lo dica chiaramente. No, non lo posso dire perché non l'ho fatto io. Ma e chi l'ha fatto? Non lo posso dire questo. Perché non fatto? Lo può dire? Ci saranno indagini in corso, perché basta cliccare sulla foto e fare una ricerca su Google più per sapere che non l'ho pubblicato io. Ma questo evidentemente, scusi, quella pagina lì, che non so usare il computer, quella pagina non lì, so cosa posso farci se i leghisti non sono capaci di usare il computer e andare a fare una ricerca. Quella pagina lì, quella foto lì, l'ha pubblicata Vento Ribelle, sì o no? Ma dopo è andata a finire in pagina, questo sì, l'abbiamo sì, visto. Ma chi tutti l'ha pubblicata? Ho capito, l'avete diffusa voi di Vento Ribelle quella foto lì? Sì, ma su Vento Ribelle sai che siamo molti admin. Cioè, ma lei la condivide o no? No, questo non era il senso così e della che cos'è? Foto. Qual è il senso, scusi? Che cosa significa quella cosa allora? Il drappo delle Brigate Rosse con... assolutamente nulla. Cosa significa? Ma assolutamente nulla. Significa come potevo mettere dietro un sfondo con la bandiera dell'ISIS dicendolo tenetelo per le cazzate che sta dicendo in giro. Ho capito, ma lei ha praticamente ammesso adesso di avere creato lei quella roba lì, perché ha detto potevamo mettere la roba dell'ISIS, invece abbiamo messo quella delle Brigate Rosse. Diciamo la verità, si assume la sua responsabilità. Ho messo io... purtroppo non posso assumerla perché la fotografia non l'ho fatta io. D'accordo. Ma era una battuta mal riuscita, una vignetta, una roba satirica o un desiderata? Una cosa satirica sicuramente, noi lavoriamo solamente sul satirico, dato che sono 20 anni che loro, la Lega con Berlusconi si sta tirando per il puntini puntini fondelli. La cosa è legare Salvini in imbavagliato e dietro le Brigate Rosse, il drappo delle Brigate Rosse. Cosa vuol dire? Che Salvini finisca in mano ai terroristi che lo vogliono ammazzare? Ma assolutamente no. No, e no, cosa significa? No, perché allora? Uno fa satira, è satira, quella è satira, quella è satira. Vabbè, è satira, va ma bene, va bene satira, tutto, per scusi, carità. Questa foto si era trovata giustamente nel web e abbiamo ritenuto postarla come satira per prendere in giro Salvini. Tutto ecco, lo vedete che l'avete fatto voi, l'avete postata voi sul web. Perché dice di no? Non ho capito perché dice di no che non l'avete postata. Perché purtroppo la foto non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo solo però presa. L'avete presa e postata? Ma postata questa, come l'ho detto, se si vede che è stata messa in l'avete pagina. L'avete postata voi, benissimo. Vuole chiedere scusa a Salvini oppure è semplicemente satira? Ma è semplicemente satira. È Salvini semplicemente dovrebbe chiedere scusa a tantissimi italiani che ha derubato con le banche, con i suoi diamanti, con la Lega. Mi scusi. Dunque è lui che deve chiedere scusa agli italiani per i soldi che ha rubato la Lega? Ma esatto, ma non solo. Ma deve chiedere scusa a tutti gli italiani che sta prendendo in giro. Cioè, abbiamo visto che avevano fatto il convegno con le loro scopette, pulizia di qua, mai più con Bossi, mai più con Berlusconi, e poi sono ancora lì in ciuccio. Ma parliamo di queste cose serie che stanno tirando in giro veramente sì, la ma gente non capisco, per i loro non capisco scopi. L'accostamento alle Brigate Rosse, questo ecco che non appunto. Capisco. Scusi, amico mio, voi avete scritto anche ho un sogno. Quindi qual è il sogno? Quello cioè, di vederlo come Aldo Moro. Il commento è ho un sogno. Questo non lo può supporre lei quello che uno può pensare. E che sogno, scusi, che sogno è? È ancora nella mente degli altri per ma sapere qual è quello il sogno? Che ma che allora, il sogno scusa. Quale sarebbe? Il sogno quale sarebbe? Il sogno è quello di vederlo rapito dalle Brigate Rosse e qual è il sogno? Spiegami, qual è il sogno? Ma che ne so io? Lei scrive, l'avete scritto voi, Vento Ribelle, ho un sogno. Ho capito, ma non è che posso decidere. Ma l'hai scritto tu, scritta, se l'hai metto tu. Io. Ma ho capito, ma che cazzo, ma dietro questa cosa qua uno può scrivere quello che vuole, ho un sogno. Chi l'ha scritto? L'avete scritto voi. Lei fa parte di Vento Ribelle, che significa avere un sogno? Mi significa scusi, voler. Ma perché si sta alterando così? No, stiamo ma è perché, stiamo parlando, d'accordo, però è la cosa che non capisco. È uno scrive una cosa, poi dice no, non l'ho scritta io, come non l'ho scritta tu? È lo stesso sito tuo. Come lei sa, in pagina possono scrivere in molti. Sì, chi l'ha scritto un sogno? Non lo so io, ma perché non viene stampato chi la scrive, me lo trovo in pagina, io sono gestore di tantissime pagine, si figuri, ho più di 300 pagine da seguire. Arrivederci, grazie, arrivederci. Ma si figuri, arrivederci. Comunque ragazzi, spesso chi sta su queste pagine Facebook che poi vengono portate all'attenzione dei media nazionali e sono dei disadattati, diciamo la verità. Meno no, male. Ma io me ne rendo conto, poi c'è libertà di parola pure per i disadattati, ma spesso sono dei disadattati, disadattati. L'ultima telefonata che ho ricevuto dalla Telecom, credo nella giornata di giovedì o di venerdì. Ma tu sei perseguitato da integrale, questi qui. Integrale. Aspetta un attimo, fermo. Pronto? Dica. Buonasera signore, possiamo parlare adesso? Sono un ragazza da Telecom. Sì, da Telecom, ma da dove chiama, scusi, da Telecom? Da Varese. Da Varese, bene, non mi pare la voce varesina, comunque bene, uguale, mi dica tutto, mi dica. Allora, la chiamo per quanto riguarda il telefono fisso a casa anche a DSL. Io non ce l'ho. Con quale gestor... Non ce l'ho il telefono fisso a casa. Per avere? No, non lo so. Per avere? No, scusi un attimo, in questo... Scusi un attimo, io in questo momento sto cagando, so al cesso, che faccio? Tiro lo sciacquone oppure continuo a cagare? Allora, io sto dicendo, se lei è interessato per entrare in Telecom sia fisso anche per l'internet a casa. No, può darsi che mi interessi la cosa, ma in questo momento sono impegnato, sto cagando, tiro lo sciacquone oppure continuo a cagare? Mi dica lei. Ok, allora... Scelga lei, che faccio? Tiro lo sciacquone, signore, che fa? Dimmi, oddio dimmi. Mio. Mi dica lei. L'orario, quando lei è disponibile. Non lo so, un orario. Io domani. Va bene, ripeto, adesso non vuole continuare, che faccio allora? Tiro lo sciacquone oppure continuo? Continuo a cagare dentro al culo. Ma come va fanculo, scusa. Ma glielo dici tre volte, la poveretta. Scusa. Perché devi umiliare così le persone, scusa? Ma no, umiliare. Stai umiliando una lavoratrice, poveretta. Quale umiliazione! Sono loro che umiliano le persone chiamandole in momenti poco opportuni. Sono questi che umiliano le persone. Sono loro che no, umiliano ma scusami, le persone. Questi sono dei lavoratori, delle ma lavoratrici, dai, anzi, su, dai. Che ti dovrebbero denunziare per stalking e stalking loro. Torni tu. panico, sì, ma sei impazzito, sei. Sì, perché tu le, in realtà le trattieni al telefono, quindi le stalkerizzi. Stiamo già scrivendo una causa con i migliori avvocati del diritto del lavoro. Sì, mi ci pulisco il culo con le cause vostre. Tu in realtà gli togli, mi ci pulisco il culo, mi ci pulisco il culo al loro lavoro per farti gioco di loro. È una cosa terribile, inumana, inumana, inumana, inumana, inumana, inumana. Giorgio da Brescia, vai. Terribile, Giorgio. Terribile. Inumano. Cattivo e inumano. Dimmi. Allora, telefonavo per le droghe leggere. Prima sentivo Gasparri. Tu mi sai che te fai le canne, eh? Qualcuno ogni tanto me le faccio. Quante? Due al giorno. Ma anche una, ma fa per qualche giorno magari non me ne faccio, dipende da come mi gira. E che vuoi dire a Gasparri? Allora, volevo dire al signor Gasparri e ad altri politici che mi piacerebbe portarli con 6 o 7 ottantenni che si fanno le canne da 55-60 anni. Ma mi stai dicendo che ci sono degli ottantenni che ancora che si fanno le canne? Alla grande. Amico mio, hai un solo compito da questo momento in poi. Portarmi a questi microfoni ottantenni che si sparano i cannoni. Giorgio da Brescia. Domani voglio che tu mi chiami. Mandami un messaggio 393. Aspetta, devo chiudere. Poi domani ci sentiamo. 393 71 71 701 è un numero che ancora funziona, per fortuna. Mandate messaggi, mandate tutti i messaggi che volete, mandate i messaggi dei giorni scorsi, mandate i messaggi da adesso in poi. E soprattutto tu, Giorgio, manda i messaggi. Voglio domani un ottantenne che si spara i cannoni. Ciao ragazzi. Già start up, rega, quindi fai un'altra aspirata, vai, un'altra aspirata. Vai. Pesante. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E comunque, viva il Pio!